di tutto un podcast Amarcord 4.0. Ancora una volta torniamo insieme agli amici di Anime Video che ci hanno fatto compagnia, anzi oddio, la prima volta ci ha fatto compagnia soltanto Luca Casciola, però questa volta abbiamo praticamente quasi il team al completo di... Direi tutti di Anime Video, che sono qui in questa puntata Marcord 4.0 per parlare di film e telefilm della nostra infanzia. Ovviamente, come al solito, abbiamo raccolto le mail dei nostri ascoltatori, che poi fondamentalmente sono sempre gli stessi, diciamocelo. Non li abbiamo pagati, ma li ringraziamo perché gli vogliamo bene. Commenteremo le loro mail e aggiungeremo ovviamente anche i nostri ricordi, insomma, facendo questo tuffo nei miti televisivi e non solo tanto della nostra infanzia. Vabbè, dai, che due palle. Bravo. Vabbè, dai, ci autopresentiamo. Ciao, io sono Carlo. Ciao, io sono Roberta. Io sono Luca. Diciamo che ne mancano tre. Infatti, ha fatto una quaresima di errori. Cresce. Proprio, mamma mia. Una quaresima. Manca come minimo Claudio. A parte che ne ha detto la cosa più importante, cioè che noi tre siamo telefilmania. Esatto. Quindi siamo qua per questo motivo. Per questo motivo. Fai ammenda, pizzi e pubblicizza. Va bene, sì, giustamente. Comunque, ciao, sono Marco. Ah, c'è anche Marco. Grazie, applauditemi, ci Marco tengo. Il distruggitore, anche detto Marco Gualdi, che ovviamente sta con noi su Archeologia Videoludica. E va bene, comunque, dai, io volevo far pubblicità prima di tutto ad Anime Video. A me sembra giusto. Bravo, è la trasmissione con la quale siete nati. Poi, ovviamente, fatti parlare di telefilmanie, multimanie, tutta una serie di manie che, insomma... Però scusa, Pizzi, abbi pazienza. Fatti parlare innanzitutto da Carlo, cos'è l'AVP? AVP, vai. Che cazzo è l'AVP? Anime Video Project. Ah, ok, che sarebbe il nuovo network. No, perché è una soppistazione, perché ha visto Giorgio Vanni Project. Ah, esatto. Qualunque cosa, comunque ci mette Project dopo. Ok. Vabbè. E comunque Telefilmania ci stai pure tu, quindi facciamo la pubblicità. Telefilmania ci sono anche io, ma non sotto, aspetta. La cosa importante, casinaro. Che qui siamo ordinati. Ma poi non lo vedo, ce lo scrivo davanti. Non soltanto, hai ragione, infatti non so come fare. In questo momento dovrei alzarmi. Vabbè, dicevamo del fatto delle trasmissioni di multimanie e telefilmanie, che ovviamente sono delle trasmissioni che una è un po' in stand-by, multimanie, ancora non sappiamo ben che fine deve fare. Telefilmanie invece in realtà è stato una toccata e fuga. Esatto, questo nuovo progetto che sta ripartendo e che poi alla fine diciamo. Che con i telefilm che ci siamo conosciuti e con i telefilm probabilmente andremo c'era avanti morte, la nostra uccideremo anche perché abbiamo anche perché il periodo è come questo. Carlo ha detto nella prima puntata di telefilmanie, insomma, che ho detto? No, nel senso che hai fatto accenni a cose e situazioni che sarebbe meglio cancellare, ma ripeto che il periodo è questo, ricorre alla diversità. Esatto. Lo stiamo parlando di Barbara Franza, a un anno di distanza dalle tragedie che abbiamo incontriamoci tutti a Lucca. Diciamo che noi con Pizzi ci siamo conosciuti a Lucca dello scorso anno. Un fantastico vero. Abbiamo fatto una fantastica cena sociale che tu ricorderai, in cui Carlo era obbligato a mangiare la pizza invece voleva la ragosta. Dice andai il giorno dopo a mangiare la ragosta. Esatto. Quindi abbiamo conosciuto Pizzi in quel di Lucca. Guarda, già tanti altri... solo l'anno sembra una vita, sembra una vita discutere con lui, mamma mia. Infatti, veramente. Invece è solo l'anno. Tante cose. Dai. Veramente sembra passato l'anno. Tocca tornare a Lucca così non ci parliamo più. È vero. No, vabbè, sta stato bene alla fine. Alla fine ma è anche colpa dell'uomo nero. Esatto, alla fine c'è l'uomo nero che non c'è più. Ci sono stati dei fraintendimenti, questa è la prima cosa. Poi questi fraintendimenti. Poi abbiamo tutta colpa Omar. E sti cazzi. E vaffanculo. Tutta colpa sua. E sti cazzi. È perfetto, infatti funziona come. Infatti, appunto, sono stati tutti amici. Tranne uno. Che se ne presenta Zappa. Giustamente. Diciamo che usiamo questa occasione per dire a tutto il mondo che noi siamo proprio amici di Pizzi. Amici così. Siamo pure qua. Nonostante ci ha cacciato dai PR, esatto. Questo no, che è la cosa divertente. Però, diciamo. Lo capite immediatamente, questa è una puntata veramente a cazzarella. Perché questo concetto di cacciare la gente dai PR lo dovresti usare su altri lidi. Vabbè, quello non fa niente, il gatto lo lasciamo fare. Michela, tanto che ti importa? Tanto non è ti importa. Giusto, caro, dico, questo concetto di cacciare dai esatto. PN lo dovrei usare in maniera più ampia. Allora, ecco. Questo rientra nella storia, perché poi la storia tra noi e gli amici di Anime Video, che in realtà poi alla fine abbiamo stretto a lente una fortissima una collaborazione, alleanza, ma anche un'amicizia, questo lo possiamo dire tranquillamente. In realtà è passata anche Di traversie, diciamo, perché c'è un periodo in cui anche Carlo giustamente ha detto a Luca: se tu la smetti di litigare con Pizzi forse riusciamo ad andare avanti. Quando invece poi litigava lui, capito? Ma è vero, comunque posso dire, quando facciamo la puntata così per cementare la nostra amicizia sui film a Marcord, c'è anche il mio dei film che dobbiamo vedere. Infatti, è così che sono finite le amicizie. Con i film di Luca. Allora, devi andare al Santorini dopo. No, io no. Riprendiamo un attimo in mano la situazione. Scusate, giusto per facciamo soltanto una piccolissima pausa musicale di quelle che poi ovviamente. No, arrangiamento, no! Giamento! Ci avevi detto non mettevi giamento. E poi iniziamo. Non fa niente, ti preoccupare, ci vediamo dopo. Tanto è tutta zozzeria, cioè tranquilla, ma una vale l'altra. Ma scusa, non è quello sto cazzo in giamento. Siamo puntate serie di tutto un podcast con puntate allegre, ma questa non è una puntata allegra, questa sarà una puntata delirio. Come una canzone del Cemento, un'allegria. Esatto, bravo. da suicidare. Allora, iniziamo con le lettere, diciamo, che sono arrivate dai nostri amici ascoltatori. Posso leggerne una io, arrivata in questo momento? No, me ne è arrivata una adesso. Vi prego, non mettere più canzoni di Giamendo. Vi prego, aiuto. Io vedo un'altra dove offrono una crema per allargare il pene, però non so se è lo stesso. Ci sono anche podcast per allargare il pene, ma non possiamo dire. No, però vi prego, quella è temporanea, tu dici quella è temporanea. Un minimo di decenza, ecco, io. Dai, leggi. Vabbè, comunque la prima è un messaggio audio. O comunque ci hai chiamato tu, quindi che vuoi. No, ma io infatti sono contento. Non so quanto saranno contenti, insomma, i nostri ascoltatori. Intrattenete il simpatico pubblico mentre che cerco. I ascoltatori sono dei bei pettegoli, quindi saranno contenti. Domani non ci sarà PPN comunque. Allora, il primo messaggio è un messaggio audio, ok? Quindi prendiamo nota di quello che dice, così almeno incominciamo a fare le nostre ricerche Wikipedia. Io intanto io attivo il mio computer, come ho detto Wikipedia. Dammi l'iPad. Ok. Allora, il primo messaggio è audio, è di Nino. Nino, che ovviamente purtroppo l'audio è quello che è, quindi speriamo di riuscire a interpretare quello che che dice, perché non si capisce. Non aver paura. Quindi salve a tutti gli amici di tutto un podcast, Simone, Michela. Quindi, telefilm della nostra infanzia. Beh, per quanto riguarda la mia, non posso fare a meno di menzionare MacGyver. Mitico telefilm degli anni Ottanta, che come altri telefilm di questo periodo cavalca l'onda della tecnologia. Uno dei personaggi che mi incuriosivano di più era Murdock, un pazzoide assassino piromane. Sostanzialmente era la nemesi di MacGyver, che era forte, che ogni volta che moriva, anzi pensavamo che morisse, lui invece faceva finta e poi ritornava in qualche episodio successivo. E ogni volta che moriva lui faceva MacGyver e poi moriva. E moriva e poi tornava in qualche puntata avanti per vendicarsi. Poi mi viene in mente Supercar, un altro mitico telefilm anni Ottanta. Non c'era sta macchina computerizzata, senziente, che prendeva per il culo a Michael. Tamarro, che poi scopriamo essere un banchino qualche anno avanti. Comunque la macchina era fenomenale. Ecco, io vorrei sapere chi è che ha visto la serie che non ha mai desiderato di avercela sta macchina, no? Cioè aveva il turbo boost, il pulsante che si apriva il tettuccio, ti scaraventava in aria, poi tu atterravi su un tetto di un palazzo. Vabbè, cose simpatiche. Comunque, avercela una macchina così. Poi, come ultimo telefilm, aspetta, anche se qui siamo qualche annetto in avanti, non siamo proprio anni 80, siamo anni 90, c'è X-Files. Bello, che dire, un mitico telefilm paranormale che introduce il concetto di complotto governativo. E che dire, però, la telenovela è durato, quant'era, 9 stagioni. 9 stagioni, una stagione l'anno, perfetto, non 9 anni della mia vita dietro a sto telefilm, a Mulder, Scully, poi anche qualche altro personaggio in avanti. Che dire, ce ne sarebbero tanti altri di cui parlare, però ecco, questi sono quelli che mi sono rimasti, diciamo, sono rimasti celati nella mia mente malata e traviata da anni di telefilm anni 80. Si vede. Vabbè. Un saluto a tutti. Questo è per morire. Vabbè, non si capisce assolutamente quasi niente di quello che che ha detto, è che esatto. Però quello che abbiamo capito è Supercar sicuramente, e possiamo parlare anche di Supercar della prima serie, il nostro Supercar, quella storica dove c'era David Hasselhoff. Ah, esatto. Dove stava David Hasselhoff. Io vorrei dare, prima di cominciare, 2 dati tecnici, però facciamo i seri. La prima, per chi vuole approfondire sui telefilm, c'è la fantastica applicazione per l'iPhone che si chiama Telefilmania, che potete scaricare a 99 centesimi, l'abbiamo fatta noi, e dove ci sono tutte le schede dei telefilm per approfondire. Questa è la prima cosa. La seconda su Supercar, per chi vuole, cioè iSupercar. Ah, bello, perché io ce l'ho preso. L'applicazione che ti permette di parlare con l'iPhone e ti risponde con la voce. Non ce l'ho. Dacci una dimostrazione. No, non ce l'ho. No, scarichiamo la cloud. Scusa, via il cazzo qua. Vabbè, niente, scarichiamo la cloud. Quindi andiamo a. Vabbè, comunque, le due serie che è prima MacGyver, perché MacGyver penso che ve lo ricordate tutti, no? È il biondino che con un astuccio è una gomma da mascherare. È una gomma da mascherare che tira la bomba atomica. Come cazzo si chiama? Giacconi. Lui, l'attore. Sì, è quello, l'attore Richard Dillon, Jack Neil è quello, il personaggio di Stargate. Ah, come fai? Come se quando io l'altro giorno ho cercato Chloe Sullivan su Wikipedia, la mia bionda salata preferita, e c'era la scheda Chloe Sullivan è un personaggio di Smallville. Chloe Sullivan non esiste. Jack. Per me ormai Anderson è Jack. Comunque sono 139 episodi, 7 stagioni. MacGyver e due film TV, attenzione. Guarda, quelli me li sono persi, per esempio. Due film TV, c'è pure Terry Hatcher, che sarebbe la tizia di Desperate Housewives. Ma dai, che sta. Sì, che faceva Penny. Infatti, vedi, dopo Penny la Parker. Dopo la cancellazione della serie, furono girati due film TV con protagonista MacGyver, che fu anche coproduttore. Il tesoro di Atlantide e Il giorno del giudizio. Devono essere un capolavoro. Ha vinto pure un telegatto MacGyver, ci ha consegnato Antonella Elia. Cioè, ti immagini la scena Antonella Elia che lo dice a dire. No, soprattutto ha preso il telegatto, ha preso un pacchetto di gomma, un astuccio, una matita e ne ha fatto una macchina da scrivere. È stato molto bello. Una bellissima cosa. Sono abbastanza impietato comunque. Vabbè, MacGyver, qualche ricordo magari personale che ci avete voi? Io, insomma, io la prima puntata a me che mi piace vidi tantissimo, però dopo un po' mi ha rotto il cazzo. Ma tuttora su Italia 1 la mattina, dopo un po' mi ha rotto un po' i coglioni. Insomma, questo veramente con lo stuzzicadenti costruiva un po'. La prima puntata che vidi era in francese. Fingevo di avere l'influenza, quindi ero costretta a rimanere dentro. Ma solo è quello. Attenzione, che abbiamo lo scoop. Scoop. Lee David Ziotoff ha annunciato. Non lo so, il creatore della serie grazie. Ha annunciato che sta per essere prodotto un film su MacGyver dalla New Line Cinema, prodotto da Raffaella De Laurentiis sulla sua casa di produzione. La Raffaella Sozzeria Globale, Raffaella Production. E Raffaella canta a casa mia. No, paura assolutamente. Comunque i due film per la televisione, tra l'altro, non avevano né il tema musicale principale, neanche i protagonisti erano gli stessi, perché non avevano i diritti per farlo. Quindi pensa che belle zozzerie devono essersi dubbi. C'era MacGyver ma con un altro attore? Penso di sì, una bella zozzeria. Oggettivamente io non l'ho visto, no? Come deve essere? MacGyver lo usa come il Dottor Who. MacGyver è uno solo, non è che si rigenera. Però assomiglia al Dottor Who perché dai, c'è il cacciavite. Ma che stupino, ma dove vedi? Non c'è il cacciavite, lui c'aveva. Ma anche il vino mai dato, il caffè mai dato, il vino mai dato. MacGyver aveva il costellino svizzero. Niente. Capito? Chi non lavora bene, non fa lavoro. E per fare l'amore che bisogna fare? Beh, non lo dice. Comunque, MacGyver a me piace. Abbonarsi, andiamo. Mi piaceva anche lui, perché io penso che da bambino forse c'era un aspetto un po' gay, quasi omosessuale. Eri un uomo sessuale. Io mi giocavo il gare. Era bello. Un sacco, mi sono visto di 630 puntate. Mi faceva tristezza il capo di MacGyver che diventa cieco. Che piano piano diventa Dana Elkar. Che cavolo è Jack O'Neill? Ma è diventato cieco veramente. No, non è quello. Quello è Dana Elkar, quello è un altro attore. Sono uguali, ma sono diversi. No, a un certo punto questo MacGyver cambia. Peter Tom. Peter Tom, è lui. Ma non è l'ultimo. Dici? No, lo so, c'è scritto però. Dana Elkar, Peter Tom. Che vabbè, ma distruggiamo tutto, no? Non ci alziamo. Se lo dice Wikipedia è vero, lo sappiamo. Io parlare di Supercar? No, leggiamo la seconda mail. Supercar c'è pure nella seconda mail, lui viene citato. Perché gli ultimi non è assolutamente Dana Elkar. Intanto grazie Nino, purtroppo ho cercato di fare il possibile per stare. Speriamo che sta bene Nino, dopo quello che abbiamo sentito, il messaggio. Speriamo che stai bene. Dacci un segno, perché ci sembra che non ci preoccupiamo, un passo dalla morte. Sarebbe a morire. Esatto. Se ti vuoi ritirare su a livello erotico, ti possiamo dare un consiglio dopo. Andiamo avanti. Vabbè, magari privatamente io leggo io, no? Leggi tu. Leggo io, dai. Intanto è anche corto, molto semplice. Insomma. Allora, mi infatti è cortissimo. Le faccio con la voce in Luca, vai con la prossima mail. Sì, ma Luca sta facendo altre cose. Ma visto, non ci sente, non ci vede, non ci vede. Sta facendo il suo podcast per conto suo. Allora, noi andiamo avanti. Allora è Marco che legge. Oh, vabbè, sono venuto qui per fare questo. No, no, assolutamente no. Non ci vede, non ci sente. Che tanto ormai mi parte, è nel suo piccolo mondo podcastiano. Allora, ciao famiglia Pizzi, ciao famiglia Anime Video e Company. Aspetta, la maggior parte è questo. Devo dire una cosa, non abbiamo detto che sono gli altri tre di Anime Video. Diciamoli: Claudio, Giorgio e Bettasan. E Bettasan. Bravi, bravi. Che hanno la loro stecca anche questa sera. Tutti, soprattutto quando si mette le orecchie da coniglio. No, ma lei è così, l'altro giorno stava a pulire per strada con la Rubione. Ovviamente stava a pulire per strada con la Rubione. Era una battuta. La mail che sta per giocare, andiamo avanti. La maggior parte dei telefilm e della TV in generale che guardavo da piccolo andava in onda su Italia 1. All'epoca non mi pesava. Adesso, pesa. Italia 1 adesso è diventata pesante. È una questione ideologica. Ideologica adesso. Perché? Perché di Silvio, lascia stare. No, tutto di Silvio. Perché non Italia 1? Il nostro signore. Ma una volta non era così. Una volta non era così, dai. Dunque, questi sono i telefilm che mi piacquero di più all'epoca. No, cioè e riguarderei, anzi riguardo se capita con piacere, ciò è allarmante. Dunque c'è cioè, A-Team. In ogni puntata qualcuno ha bisogno di aiuto contro estorsori, rapitori, assassini e tutti gli altri tipi di cattivi. Forse mancano solo gli alieni, ma non può dire. Adori pieni per riuscire. Su A-Team c'è da dire una cosa, che c'era lo spin-off di Mr. T, chi se lo ricorda? Sì, non era uno spin-off. Sì, il cartone animato. Era il cartone animato, però non era uno spin-off. Mister T, solo tu ci puoi sodomizzare. Non mi sembra che così era più o meno. Beh, dopo ce la mettiamo da alcuni ascoltatori nostri. In realtà non è che siamo tanto meglio, eh. Ed ora andiamo anche lui con MacGyver. Non c'era nulla che non potesse costruire. Era uno che cavava il sangue delle rape. Secondo un recente sondaggio, è il personaggio da cui gli americani preferirebbero essere salvati in caso di disastro. Ma ancora non è Chuck Norris. Chuck Norris lo fa il disastro. Combatte. Lui lo fa il disastro. Dopo diviene MacGyver e lo sa. Ma abbiamo detto di chi è sta mail? Marco Palma. L'ho chiesto tre volte, infatti. Ma è Marco Palma. Abbiamo detto, se tu non senti, se nel tuo mondo podcastiano, tornaci, dai. Poi viene Supercar Kit, il Night Industries 2000. Era la macchina Night Industries. No, ho detto io. Night Industries 2000. Era la macchina che tutti i bambini sognavano, anche se all'epoca il babbo era una Fiat 128, icona. Poi c'era Hazard, Dukes of Hazard, che all'epoca non ha mai chiamato con il suo nome per me e per tutti quelli che conoscevano il boy Luke. Inseguimenti e salti mirabolanti nelle campagne della Georgia, quella americana ovviamente. E poi Daisy era da favola anche per un bambino che non capiva niente di niente. Scavezzacollo, questo è il suo commento. Poi c'era Quantum Leap, che in Italia era il viaggio nel tempo con il nostro Scott Bakula. La storia di Samuel Beckett, ma no, e poi c'era anche il numero uno di Galactica, attenzione, fratello Kevin. Ma Bakula non è quello di Star Trek, dell'Enterprise? Sì, certo, lui. No, è un record che l'ho già visto. Ecco, l'avevo visto. È tornato fra noi. Bravo. E poi ti ricordi anche Dean, poi c'era anche Dean Stockwell che faceva Al Calamici. Non so se ti ricordi, mio caro. Al Calamici. L'ho trovato. No, non l'ho trovato. Mike l'ho trovato. Dicono che forse fa una comparsata da The Walking Dead, però non è sicuro. Questa è sempre brutta. E vabbè, siamo di fanno a canini. E sai quando compare in Walking Dead che dice allegria e mangia la persona. No, dicevo, c'è cioè anche Al Calamici, ti ricordi che era quello l'amico olografico che praticamente veniva dal futuro? Era Dean Stockwell che praticamente fa fratello Caviel a Galactica. È lui, vuoi capirli, è vero? È lui. Ammazza, come stai a aprire dei flash? No, io apro. Vecchio, quello pelato. Ah, il pelato, no? Quello stronzo, il numero uno di. È pelato. Beh, un po' spiracciato, però non è pelato. Non è pelato. È quello spiracciato. Quello è Dean Stockwell. Dean Stockwell, che praticamente era quello che faceva l'amico olografico di Sam Beckett. Dunque, la storia di Samuel Beckett, ma non dello scrittore, bensì del dottor Samuel Beckett, che in ogni puntata veniva spedito in viaggio nel tempo, come diceva il titolo italiano. La particolarità del viaggio era che il fatto che Samuel non venisse trasportato in un altro periodo con tutto il corpo, bla bla bla bla bla. Vabbè, insomma, è una cosa molto bella. Io ve la consiglio di vedere, perché a parte il fatto che era sempre un po' ripetitivo, comunque era molto, molto simpatico. Ma che stai a dire? Era una cazzata. Ma era bellissimo. Ma dai, allora, c'era lui che quando andava dietro il tempo assumeva la forma dell'altra esatto, persona. Esatto, era bellissimo. Una volta rimane scientifica. Una volta rimane anche incinto. Attenzione, ma Valentina 10 anni fa diventò pizzi. Ma che cazzo significa? Comunque ti piace tanto che basi scientifica già. Infatti, sì, dai. No. C'è un tante. Cioè, ce n'è un botto in basi scientifica. Certo. Cioè, la cabina del telefono che fa dietro il telefono. Che c'entra? Anche perché tu sai che esistono diverse dimensioni. Esistono almeno una ventina. Però vedi, dottore, è una serie di fantascienza. Questo qua viaggia, inventa una macchina. Ma non mi piaceva neanche a me. Non è che lo sto inventando. No, mi sto incazzando. Fammi sentire. Torna indietro e assume la cosa di un'altra persona. Come è possibile? Soltanto Laura non assumeva, era solo Laura. No, cioè lui si vedeva. Sì, era Laura, era un altro. Esatto, era solo Laura. Laura la vede solo il padre. Laura Palmer. Laura Palmer. Io ho una domanda, ma sì, le team, sì, che loro ovviamente erano in fuga dalla polizia militare perché sì, erano disertori, tipo, esatto, no? Era un'organizzazione segreta, era un'organizzazione segretissima, sì? Ma perché la trovavano tutti? Perché andavano dal cinese, che poi era sempre lui, tutto andava dal cinese, scrivendo XYZ sulla bacheca di treni, no? Chiaramente, come questi pianti. No, ovviamente non si sa mai, tutte le puntate partono con loro che mi vengono contattati, in qualche modo si farà, se sapeva in qualche modo, qualche modo. Però se lo uno sparge la voce, cioè nel senso uno sparge la voce, quello che dico è che esatto, se lo sapevano le persone di difficoltà lo sapeva pure la polizia militare, allora ma loro facevano sempre il test, lo mandavano sempre dal cinese, no, che era in realtà George Pepper travestito, e qui intanto facciamo un riassunto, cerchiamo, sì. No, guarda, basta, finisce col quanto lì, c'ho un'ultimissima domanda perché poi è abbastanza, cioè nel senso, perché su A-Team tutti sparavano e non moriva nessuno? Perché era un telefilm buonista del cazzo, fondamentalmente è quello. Tanti in quell'epoca. Sì, vabbè, ho capito, però perché era comunque la gente moriva. Ma era un target molto bambinesco quello, comunque molto teenageresco. Comunque i team sono 98. No, assolutamente no, ma ormai è morto un cattivo. Magnum P.I. è l'altro che non è stato citato da nessuno, cioè dico bene. Ancora non è stato citato. Magnum P.I. era un figaccione, ragazzi, fermi tutti. Magnum P.I. leva, Higgins, TC. Vabbè, comunque dai, parliamo del film di A-Team, che invece è fighissimo. Quale film? Mamma mia, al cinema, il remake. Non è così figo. Dai, c'è molto carino. No, molto carino, sbaglio. C'è lo sfigato di Alex che ho tutta dicendo di diventare figo. Esatto. Curiosità, curiosità. Ci ha trovato una curiosità. Nella sigla iniziale si vede Sberra guardare perplesso un robot. Chi ha visto Galattica lo sa. Perché lui poi dopo farà Galattica, giusto? No, prima l'ha fatto. Poi giustamente ha lasciato Galattica. Lui e anche l'altro attore ha lasciato Galattica prima che diventasse una merda. E sono stati sostituiti da altri due attori di cui non conosco il nome. Che nel telefilm erano mezza stagione dove c'erano i due attori che erano Troy e Dillon, se non sbaglio, quindi erano proprio fatti fuori alla grande. Partecipa soltanto nella puntata speciale, praticamente una puntata pilota, mi sembra, di quella stagione. Dirk Benedict, questa cosa, ma voglio andare a pescare, guarda il Cylon, guarda, sì guarda il Cylon, sta facendo il film e passa un Cylone, uno vestito da Cylone, ovviamente c'erano quelli del tipo ma gli fa tipo ma come se avesse riconosciuto qualcosa. Poi diciamo invece Supercazzo 90 puntate. 90. Quante puntate? Quante macchine hanno cambiato? Supercazzo è un mito, ragazzi. Sì, Supercazzo, vai. Quattro stagioni sono Supercazzo. Sono quattro stagioni più la serie nuove. Ma le abbiamo vinte. E i film. Beh, fondamentalmente comunque era un precursore degli ultimi anni. Adesso abbiamo la macchina che parlano con i navigatori, quelle che si parcheggiano da sole. Poi l'unica cosa è che non ti sparano fuori dalla macchina, giusto se fai infrontare. Ma però ti viene a prendere, quindi spero. È quella, ma lo faranno anche la macchina che ti viene a prendere. Ma no, poi che altro ci dice Marco Paglia? Vogliamo andare avanti o parlare in eterno di No, io direi di ringraziare Marco Paglia anche. Posso aprire parentesi? Apri una parentesi, tanto l'abbiamo aperta. Sei un po' agitato. Mi sto agitando. Sono trovato agitato l'ultima volta. Che ha fatto? Ti sei abbonato ai PN e scaricato. No, perché nessuno mi ha citato. È diventata una celebrità del mondo di nessuno mi ha citato ancora la dimensione alfa, quindi fino a che non. Comunque vediamo quanto un VIP, giusto per capire. Quanto un VIP. Quanto invece sono 95 episodi. Bellissimi. 95 episodi. Che poi non finisce, purtroppo. È una di quelle che quando finiva l'ascolto sotto una certa soglia. Diciamo che Michele è talmente interessata a questi episodi che sta andando in giro a fare il nuovo. Dietro tutto. Non è uno schiera, quello è un Hazard. The Dukes of Hazard. 147 episodi. E c'è anche una serie animata. Sì, sì, Dukes of Hazard. Che fanno giro intorno al mondo. Sì, sì. Film TV e soprattutto a metà cambiano i cugini. Sì. Poi sono stati i cugini uguali. Ma poi sono stati ripresi. Che era Boy Luke, che erano i primi. Poi sono venuti Coy e Vance. E poi sono stati E poi sono stati risostituiti dai vecchi attori originali che si sono, perché alla fine rompevano i coglioni. Ricordiamo che Bo, quello biondo, è il padre di Clark e Smallville. Sì, sì, sì. In una puntata c'è anche Duke e col generale lì. Ma dai, figata. Va avanti, una bella zozzeria. Andiamo avanti. Grazie Marco Paglia dei tuoi ricordi. Grazie, ma basta però. Ciao Marco Paglia. Ciao. Ancora nessuno ha nominato delle film come Magnum P.I. Ma io dico io, Magnum P.I. Marco Paglia dice buona di IPN e buona di Anime Video. Già sappiamo. Fedelissimo Marco Paglia. Alimentiamo la cosa con pizzi, la concorrenza degli ascolti. Togliamo ascolti a lui e aumentiamo di nome. Lui viene stimolato da sta cosa. Ma noi torneremo in tutt'uno prima o poi. Certo, appena tu. Podcasting vuoi. Ma noi per tornare abbiamo una richiesta esplicita. Quindi se ci rivuoi. Se continui è più facile, ci portiamo con il brodo da nome. Chi è? Sta diventando una cosa seria. Anime Video Project. Capito? Sta accappando. Ma noi non ci abbiamo né il controllo di qualità, né il controllo. Tu saresti solo un trofeo, però ricordali, ti uso come un trofeo. Ma che scherzi, poi ti metteremo dentro proprio. Andiamo avanti. Certo, il nome della missione sarebbe Colibromania. Non puoi dire podcast. Libromania. Torniamo a noi, leggo. Allora Michele Schuren. Dai. No, il mio... Perché dai? Sempre dei tre. Ti vedi che ci sono ascoltatori. Perché loro sono quelli che hanno il coraggio di scrivere. Bravi. No, forse sono gli unici che ci ascoltano. Non è vero. Sono gli unici che hanno il coraggio di scrivere. Sono 3.000 volte dopo. Leggo e mi imposto. Allora, il mio film preferito di quando ero bambino, che ho visto 1.000 volte. Film. Non c'eravamo accorti che era film e televisione. No, bello non essersene accorti. Bello. Vabbè, quindi ciao Schuren. Un film che ho visto 1.000 volte, Il lupo mannaro americano a Londra. Che è molto carino. Sì. Non so bene perché. Ogni volta che andavo da mia zia, manco io. Cerca un po'. Che aveva lupi mannari più figli. John Land, chi cacchio? No, paura, John Land, sì. A me faceva proprio paura. Che aveva il videoregistratore e la videocassetta, sì, dove guardarlo. Era un horror. Un horror che c'avevo con fili di commedia, tutto sommato, perché c'erano comunque dei pezzi. Vabbè, anche questo l'ho visto. Vedilo perché è carino. Anche Vip, mio fratello superuomo, di Bruno Bozzetto. Anche no. Ah, carino, simpatico. Anche se l'ho visto qualche dice le volte. Ma un film italiano. È un film di animazione, Vip e mini Vip. Il film che mi ha spaventato di più è decisamente Hellraiser. Beh, sì. Ma non c'è più, ragazzi. Io vorrei soltanto dire una cosa, che poi di questa missione stavo a fare io e Marco. Non ci sentito nessuno, non ci stanno a sentire. Vip è venuto molto dopo, quello è Pamela Anderson, arriva molto dopo. VIP, il film che l'ha decisamente spaventato. Hellraiser, perché è una zozzeria, non è che una zozzeria. Hellraiser, visto una volta durante il ciclo Notte Horror di Italia 1, ho dovuto tenere la luce accesa. Ma a me questo mi è capito pure quando vedo i film quelli normali. Tant'è quando anche quando vedi i puffi incontro i puffi 3D. Il flauto a 6 puffi a me mi stringa. Così non ci metto niente. No, perché poi mi risogno la notte, capito? L'altra notte ho fatto un cazzo di sogno che praticamente. Sì, che praticamente io ero il figlio di Gabuto. Cioè, mi chiamavo Luca Gabuto, cioè la cosa terribile. Ho visto vedendo Mazinger, quello là, quello nuovo. È trippodissimo, ci ho quella mano. No, però capito, mi chiamavo Luca Gabuto e facevo. Cosa facevo? Guarda, c'avevo un Mazinger anche per te. Io no, grazie, papà, come se avessi accettato. Che mi ricorda qualcosa. No, te ne ho fatto uno. Mazinga. Hai un grandissimo Mazinga. No, Mazinga sua aveva le tette, però quello è il problema. Stavo sognando, evidentemente. Che te devo dire? Dopo un po' ho dovuto chiamare mia madre che mi spingesse, ma sono straziato la stazione di viaggio, Luca, e mi accompagnasse al letto. Che avevo troppa paura. Che è al posto di aprire? Per togliere lo sguardo. Troppa paura. Per togliere lo sguardo. Non mi ricordo niente del film in sé. Che c'è? L'ha visto quando era piccolino. E non l'ho mai più rivisto. Guarda, Michele, non riguardarlo, perché poi se lo vedi con gli occhi di oggi è una cagata. E ti prendi per culo da solo per il resto. È come quando ho visto Tecman. Tu hai visto mai Tecman dal vivo? Cioè, dal vivo no. Non è successo. Diciamo da adulto. Io quando ero piccolo c'avevo sto ricordo. Lui entrava, veniva avvolto da sti robi e faceva. Invece è un fermo immagine, una tristezza proprio. Vabbè, andiamo. Oh. Io in punto sei svegliato. Come film che qua ritmo. Come film che mi hanno commosso, ricordo molto piacere Navigator. Bello Navigator, carino, simpatico. In cui un bambino viene rapito da un UFO e poi riportato sulla Terra, solo che per lui era stata una cosa istantanea, mentre per tutti gli altri era passata di 10 anni. Molto molto bello. E la colonna sonora era See You Later Navigator. Cioè, no, no, ma torna pure nel tuo mondo podcastiano, tranquillo. Ho tolto tutto, sto capendo una cippa. Allora poi dice: aspetta, non è finito. Solo che per ora stava besticando. Sempre sullo stesso tipo. Mi piace ricordare un film per niente introvabile. Ma qua è Mule, niente introvabile. Si dice è Mule. È Mule. Ma Francesco va corretto. È Mule. E me tutti usate. Salutiamo Francesca. Ciao Francesca. Tra l'altro c'è che si chiama Amiul. In cui il protagonista mi pare sia un robot con fattezze umane che scappa. Daryl. Che scappa dal laboratorio e cerca di vivere in una vita da bambino normale. È un po' l'antesignano di Spielberg. Ma sono passati moltissimi anni. L'ultima volta l'ho visto e non me lo ricordo bene. Per quanto riguarda i telefilm, no, finalmente ci siamo. Sappiamo sui telefilm. Quello che mi ha segnato di più è Supercar. Supercar è il preferito del mondo. Cazzo, il mio supremo di tutti. Il mio supremo, pure per me. Penso di aver visto tutte le puntate delle varie repliche che hanno fatto. Visto un paio di anni fa pure il remake, che è cagata. Carino, ma la serie si interrompe proprio quando inizia a decollare. Peccato. Forse è quello. Poi mi ricordo con piacere la serie Incredibile Hulk. Incredibile Hulk. Wonder Woman. Wonder Woman, ragazzi, Wonder Woman è una strafiga in mano. Di qualche cazzata vediamo quanto Wonder Woman era Miss America e quindi fu presa per casate. Recitava di merda, ma era bellissima. Se tu vai sulla pagina dell'Wikipedia che parla di Wonder Woman, di Wonder Woman. C'è adesso ovviamente l'immagine di lei all'età sua, cioè all'età attuale, insomma. Linda Carter. È ancora buono. È una vecchia. No, cioè, dai, è invecchiata male. Guarda che i film porno con i vecchi li vedo spesso. I film porno con i vecchi li vedo spesso. Sono belli, older si chiamano. Tu adesso faccio il mangero. Guardi film porno, capito? Ma nel 75. Tutti gli uomini guardano i film porno. Sì, ma tu non le guardi. Ho scoperto dopo il termine MILF, mica lo sapevo. Madre, l'ho più fatto. Vabbè, te lo spiegavo io. Basta. Sono io che mi guardo, Luca. Comunque, Luca. Tutti guardano i film porno, ma tu te li vedi fino alla fine, però. Il problema è quello per vedere come va a finire. Vuoi sapere la trama? Finiscono tutti allo stesso modo. Io ho visto il Chiamatore, che era bellissimo proprio. Finiscono tutti allo stesso modo. Il Gladiatore. Vabbè, comunque la battaglia finale. L'incredibile Hulk con Wolverine, che è morto di cancro perché lo dipingevano sempre di verde. No, è diventato sordo, non è morto di cancro. No, è ancora vivo. Non è morto di cancro. No, c'è anche Hulk. Wonder Woman sono 60 episodi, penso. Bella merda Wonder Woman. Sì, però era gnocca. Gli si perdona questa cosa. Bella merda. E l'uomo da 6 milioni di dollari. Lee Majors, ragazzi. Bellissimo. L'effetto speciale più stupido dell'universo. Cioè, rallenti come l'uomo bionico. Perché in realtà si chiama l'uomo da 6 milioni di dollari. Il sesto episodio. No, ma poi c'è l'uomo bionico. Io vorrei dire due cose sull'uomo da 6 milioni di dollari. La prima è il fantastico remake che hanno fatto quelli da Atom Production, l'uomo da 6 milioni di euro, 300 mila lire, ah, che cosa terribile, da 6 mila euro, 6 mila euro, 3 milioni, la seconda c'è pure la donna bionica, no, che era un spin-off, no? 6 milioni di lire, vada a 3 mila euro. Poi c'è la donna bionica, la cui sigla era cantata da Jimmy Fontana. Oh, se la ricorda? Bambola, bambina, sempre nella mente tua. E poi c'è il ritorno e fa tiki ti ti ti. L'uomo bionico comunque è una figata. Dai, l'uomo bionico è figo. Che poi c'è, vi ricordate il Sasquatch? Ti ricordi in cazzo? È uno dei personaggi tipo Bigfoot. Bigfoot che era un robot alieno, però c'era anche questa cosa. Tutti e due combattevano. 82. Voi parlate di serie del 75, io non ero nato. Ma non è una giustificazione. Vogliamo parlare che c'è, che ci sta un film dell'87 che è The Return of the Six Million Dollar in Bionic Woman. E certo, col figlio Bionic. Dell'89 Bionic Showdown The Six Million Dollar, e poi c'è Bionic Ever After del 94. Cioè, forse quello. No, c'è anche quello col figlio bionico pure, che è una cosa che non so se io, una cosa assurda. Anche perché è pretestuoso. Beh, no? Comunque Shulan a un certo punto fa anche riferimento alla fine ai chips, che bello, no, anche lui, anche lui innanzitutto cita Boglio 7. Non ci sono arrivato, non mi fate finire legge. Infatti. Dice, allora, come non ricordare, mi dici Boy Duke, che la sigla è? Boy Duke. E soprattutto quel gran pezzo di gnocca della cugina Daisy, che ricordiamo sposata con Ringo Starr dei Beatles. Che poi c'è una chiattona esagerata, no, non c'è, no. Che cazzo dici? Allora forza di cheeseburger, dai, ma per forza da me. Anche quello lo vedevo sempre, vedevo anche i chips. California Highway Tetris. Com'è la sigla? Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Io mi ricordo dei chips, una puntata, la puntata dei ridicoli, con quelle moto che non si muovevano mai, stavano sempre appaiate, non c'erano che andavano. Ma ti ricordi la puntata quella che gli sfidano la vita a Poncerello? E poi vagamente, tutta la puntata sta là, mo si sfida, mo casca e poi non casca. Poncerello, poi c'è tutto il biondo, lo sostituiscono col fratello. Non so se è fratello dice, per ora non mi viene in mente altro, magari se mi ricordo faccio un'aggiunta. Prendi il telefono. Va bene, ringraziamo anche Michele Schulen per questa sua mail, ci hai fatto ritornare in mente alcune cose simpatiche. Facciamo la seconda pausa e poi... No, l'altro no, no! Che coglioni, no, sta cazzo di musica del Ciamendo del merda, io come ti stacco. Secondo messaggio audio, sarebbe quello di Peppe. Vedete, prende Colibro, te ne è già mando, però prende Colibro, fagli lo smacco a lui. No, c'hai ragione, ci lasciavi che c'è veramente nel podcast suo, sti cazzo. Allora, mettiamo caso per la cosa e poi la tagliamo in montaggio. Stavo dicendo. Lo sai che bello quando fa? E adesso dopo questo libro... Stavo dicendo. Cioè, non l'abbiamo chiamato Arnold. Arnold, i Robinson. Non l'abbiamo finito. Dopo alla fine facciamo il giro di ognuno di noi, come si ricorda. Oh, carissimi amicici di tutto un podcast, sono Peppe Scaletta E rispondo al richiamo di questa fantastica puntata sulla Marcord relativa a film e a telefilm. Io ho due film ai quali tengo in particolar modo, riguardanti la mia infanzia o la mia adolescenza. Il primo è un grande classico, un film d'avventura dell'85 di Richard Donner, cioè i Goonies, che penso abbia affascinato un po' tutta la mia generazione. Riassumendo la trama in breve, per quei quattro individui sulla faccia della terra che non l'avessero mai visto, banda fratelli, malviventi italoamericani che si mettono contro una banda composta da ragazzini, ognuno caratterizzato in maniera veramente sensazionale, certo ricalcando i soliti stereotipi dei film in questione, quindi Mickey, ingenuo, anche un po' timido, Chunk, il simpaticone mangione, Data, quello geniale, eccetera, anche un paio di ragazzine, che praticamente si ficcano nei guai ricercando il tesoro di un fantomatico pirata d'altri tempi, Willy Lorbo. Beh, e qui si inseriscono tutta una serie di vicissitudini per creare un film che incarna proprio il concetto di avventura un po' come fa anche Indiana Jones, solo che è riportato al mondo degli adolescenti. A me questo film ha detto tanto, fra l'altro l'ho anche riguardato di recente, risulta ancora piacevole, evocativo, un film che a suo tempo ebbe il soggetto di Steven Spielberg, quello stesso Steven Spielberg che proprio quest'anno ha fatto uscire Super 8, al quale si dice che il film sia accomunato per certo avere come protagonisti degli adolescenti e per lo spirito d'avventura. Io Super 8 non l'ho visto, penso che prima o poi lo vedrò, non so, magari Simone avrà qualche lusinghiero commento, visto che ama molto Steven Spielberg. Ritornando ai Goonies, è un film che consiglio a chi non l'avesse ancora visto. Il secondo è invece qualcosa un po' più di nicchia. Passiamo a un film di qualche anno dopo, del 1989, diretto dal regista Todd Holland. Il nome è Il piccolo grande mago dei videogames, titolo originale inglese The Wizard. E per chi ha avuto la fortuna di vedere questo film è facile capire il perché perché mi è piaciuto così tanto, perché è un film che parla di videogiochi, sebbene non lo fosse esplicitamente. Mi spiego meglio. La storia di questo film è incentrata su Jimmy, un ragazzino che ha ricevuto un trauma da piccolo vedendo morire la sorella gemella. Questo bambino diventa muto, si chiude nel mutismo, e suo fratello scopre che, sebbene abbia questo handicap, è davvero molto bravo coi videogiochi e quindi decide di guadagnare dei soldi. Intanto lo sequestra da casa, lo porta via per paura che sia trattato male, insomma, e lo porta a un grandissimo campionato dei videogiochi, sperando di vincere una cospicua somma. La cosa particolare è che poi ho sollevato tutta una serie di critiche su questo film è il fatto che vi fosse un massiccio uso di product placement, ovvero quella sottilissima arte di mettere dei prodotti e dei brand di prodotti a favore di telecamere, diciamo, per reclamizzarli, anche se la cosa non era ufficializzata. Infatti Nintendo non compare nella locandina di questo film, non è istituzionalizzata, è palesata questa sua partecipazione al film, ma è praticamente ovunque nella pellicola. Sono le console, il NES compare tantissime volte, addirittura il gioco finale del campionato è Super Mario Bros. 3, che sarebbe uscito in America di lì a poco. Ed è ovvio perché mi sia piaciuto, perché in quell'epoca giocavo proprio col NES, e quindi per me vedere esaltata la casa madre giapponese in quel modo era una bella cosa, e quindi mi ci sono anche ritrovato. Fra l'altro, fra gli attori in questione c'era anche un Christian Slater dannata, un attore che insomma mi è sempre piaciuto per la sua interpretazione e poi anche per il suo viso sfacciato, e Adesso leggo anche un Tobey Maguire, che onestamente non ricordo chissà che particina che faceva. Boh. Cos'altro? Niente. Spero che questa trasmissione sia piena zeppa di ricordi interessanti coi quali potrò trastullarmi ascoltando il podcast. Un ciao a tutti gli ascoltatori di IPN. Ok, abbiamo sentito Giuseppe Scaletta che non abbiamo fatto tagliare. Diciamo che sono Luca che si è imposto. Non facciamolo tagliare. Lo sentiamo fino all'ultimo secondo. Invece no, lo sentiamo fino all'ultimo secondo. Giuseppe Scaletta, professor. Lo vogliamo risentire un'altra volta. Ultimamente ribattezzato Siciliana Jones. Siciliana Jones. Bella Siciliana Jones. Perdonami, però Siciliana Marco, Jones c'è stata. Diversa di Marco, che ci ha ovviamente presentato questi suoi due ricordi cinematografici. Uno sono i Goonies, Spielberg. Preciso subito, Peppe, io non è che sono contro Steven Spielberg, anzi, cioè per me Steven Spielberg è stato un mito, però penso, e questo l'ho detto anche in Telefilmania, che c'è un momento in cui i grassi fanno male, bisogna lasciare stare, lui era bellissimo, i Goonies. Tant'è che ha fatto remake con la Ieri adesso, quindi Steven Spielberg era Steven Spielberg, no? Quando è questa specie di rincoglionito che sta facendo stronzate. Salutiamo Steven. Ciao Steven. Okay. Scusa Simo, ma c'è qui la rubrica morti di bestemmie? No, quella è un'altra, sul Techno Tickets. Leggiamo il prossimo messaggio, lo posso leggere io? Aspetta, dicevo, allora, i Goonies... Leggi tu, dai. Lo ricordi, dai? Anzi, lo leggo io. Io me lo ricordo, i Goonies, se mi piacque molto, ma non lo ricordo minimamente. Ma come, ero quei bambini che andavano... Io non l'ho visto, per cui non l'ho visto. Ma visto i Goonies, Luca, vergogna. Cioè, i bambini cinesi a ciccione, insomma, 8 mm praticamente. Sì, 8 mm senza alieni, però. 8 mm. Cioè, c'è il bambino in ciccione, c'è come quelli che provano di rossi. C'è il grasso, il bambino, la gnocca. Il cinese ultra tecnologico. Sì, c'è la grande, il ciclo. Tutti erano innamorati di lui. Aggroppate. No, è che devo salvare, devo trovare sto tesoro per salvare la casa di Game. Ma sempre salvare la cittadina proprio. Invece il piccolo genio dei videogiochi, là come si chiama, che praticamente parla di sto bambino. Che è un bambino infelice e anche un po' ritardato. Devo cercare. L'avete trovata questa, la scheda di questo fantastico? La scheda di piccolo grande mago dei videogames. Piccolo grande mago dei videogames, che è un bambino infelice, anche un po' ritardato, che però era bravissimo. Il fratello lo sfrutta perché era bravissimo a giocare ai videogiochi. Bravo! È normale. Io sto film sinceramente proprio no, non l'ho proprio visto. Io l'ho visto, Marco sicuramente l'ha visto. Io no, sicuramente mi sono rifiutato. L'ha visto Luca. No, e poi niente, la storia di sto bambino ritardato tipo Rain Man. Che fa, non è capace a fare niente, ma fa solo i videogiochi. Il fratello lo sfrutta, poi non mi ricordo come si finisce pure in mezzo a cosa della scia, non mi ricordo. Vabbè, comunque l'ha spiegato Peppe nel suo messaggio. Bravo, andiamo avanti. Allora, adesso lo leggi tu il messaggio, però lo commentiamo insieme. Lo commentiamo insieme. Allora. Io però non so se ho tanta personalità per commentarlo, quindi vai tu. Chi c'ha il coraggio? Cioè, c'ha il coraggio di scriverci ogni puntata che facciamo. E soprattutto c'è avuto il coraggio di scrivere quando ci sono io, quindi proprio è una persona coraggiosa. Ma ricordo, ci sei sempre tu. Quindi. Hai ragione. Ciao Katie, come stai? Spero male. Vai avanti tu. No, non si dice, una cosa del genere a Katie. Hai ragione. Cantare piccola Katie. Ciao Katie, come stai? Lo so che stai male. Vabbè. Andiamo avanti, vai. Sì, tanto ma se pizzi mi taglia. Sì. Tanto taglia, sì. No, non taglio niente. Non taglia niente, lui non taglia niente. No, noi non siamo. Tanto, dovreste, in alcuni casi. Dunque, leggo, sto per leggere. Leggo. Sì. Ma se mi prendete in giro come sempre, non gioco più con voi. Ci stiamo. Gianpaolo, dunque, allora io vorrei citare tra i telefilm La casa della prateria. Vabbè, ma pure La casa della prateria, ma per carità di Dio, cioè, e poi lei diventa cieca. E poi la cosa c'è una tristezza unica. Le bambine dentro quel telefilm ci sono cresciute dentro. E poi una era Shannon Doherty. La spiegazione, una era Shannon Doherty. Ma dai, veramente. La bambina piccola piccola era Shannon Doherty. Era Shannon Doherty. Ah, ecco, che ricordiamo essere Brenda di Beverly Hills. Brenda, sì. Se lo ricordiamo essere quella che l'attrice più cacciata dai set dell'universo. Secondo me l'hanno cacciata pure dalla casa della prateria. No, lì stava zitta ancora. C'è Shannon Doherty. Guarda, se volete su IMDb c'è di tutto. Vabbè, mentre loro parlano, noi potremmo anche leggere. Fai leggere, grazie. Non ancora. Jenny Wilder. Jenny Wilder. Vabbè, sono la stagione 9, però sta. Stiga, perché vabbè, hanno cacciato. Hanno cacciato. Una domanda, no? Sai che non ci sono medici qua. Ma la spiegazione, proprio scientifica di come quella povera ragazza è diventata cieca, cioè senza ragione. Ma non c'era, allora non c'era la scienza, per cui succede, non è che no, non è che parlare sui telefoni di fantascienza, c'è anche altro. Anche la casa vuol dire due palle. Due coglioni, in effetti. Andiamo avanti, morto le bestemmie, insomma. La bionda che c'aveva pure la faccia. Però vuole sapere com'è finito, quindi apriamo Wikipedia, perché lei non è capace, non c'ha le dita che si muovono, e al posto suo andiamo a leggere su Wikipedia com'è finita. No, ma perché voi non la conoscete, che ti già aprire Wikipedia è già una cosa che denota ma carattere. Sai, finisce. Allora, vabbè, basta, finisce. Però, non è che tu c'hai queste polemiche però, ascoltatori, non va bene. Invece allora. Sì, cioè i tuoi ascoltatori. Sì, no, ma finisce che praticamente finisce che calano gli ascolti e viene chiuso. Mi prendo tutta la responsabilità. Comunque 10 stagioni non sta cagando. Stiamo parlando adesso. Calcola che Beautiful ne ha fatte molte di più, quindi insomma. C'è pure la casa della patria.com. Ma il sito. Certo, sì, e no? C'è gente che ancora ci mangia con la casa. Vabbè, io andrei. Fate me avanti. No, la prossima non lo so, ma ho oscurato tutto, ma ho oscurato Luca. C'è sta cosa. Allora, aspetta, fermi. Fermi. Fermi. Fermi. Allora, vabbè, se ho vista, cioè l'ho vista, non la conosco. Bravo, perché se l'avessi vista, cioè, mi è arrivata, ormai l'hai detto la cioè, vista, mi è arrivata una mail, ma tu me devi spiegare. Mi è arrivata la mail online il video del Belen, cioè, ma che cazzo? Online Belen. Ma vedere. Un tale Muzik Shop. Cioè, ma che dove mi hai registrato? Ma non c'è niente, sto vabbè, okay. Poi proseguiamo. Comunque, telefilm in belli invece c'erano appunto Batman con i cartelli Sbam, Sbim, Crack, Sbor, tutte queste. Ma c'è la fantasia, secondo me abbiamo visto, ma fatta fedele all'originale, ma c'è fatta bene con tanti Sbor, anche Sbor, no, no, ma no, proprio sì. C'era, è così. Ma poi è fatta proprio bene, cioè con i costumi originali, sì, scenografie, c'è un sacco di soldi. I costumi originali non esce con una scienza, no. Però rifarla tutto bene, li compri anche al mercatino. Quando si picchia, poi c'è Wonder Woman, giravolta, cambio d'abito, togli gli occhiali, nessuno ti riconosce. Vabbè, comunque, quella cosa, comune a tutti i super, ma soprattutto DC Comics, insomma, come la gente come Luca che se legge i fumetti di Superman, vedete che Clark Kent gli è sposti un attimo e ciuffa gli occhiali in altra versione. Questa non me lo vedi, perché proprio nell'ultimo puntare di Smallville che ho visto c'è la spiegazione di questa cosa, cioè che la sua, ma è un'invenzione, cioè è un processo narrativo. Aspetta raccontaci, raccontaci, il suo travestimento è Clark Kent e non certo lui è Superman, non si deve mascherare per essere Superman, è cazzata uguale, no, e quindi la gente mi fai finire parlare, mannaggia la Pentecoste, no, perché aspetta, noi l'altra sera abbiamo visto il film dei Lanterna Verde, no? No, mi dico tutto è fantastico, mi viene la cosa, la mascherina, ma che è sta cazzata, cioè tu, cioè, ah, lei lo riconosce, però infatti lo riconosce, che da cosa sei? Sì, ma quello durante l'addestramento gli dice che metti a fare la mascherina, non sei mica un incognito. Cioè, ma è ridicola questa cosa. Vabbè, ma degli anni 60-70. Che appunto spiega e dice che il tuo vestimento è Clark Kent. Non per me, ma questa è una cosa. Spoiler. Che non sono solo gli occhiali, ma il fatto che lui è una persona anonima e che quindi passa inosservata. Così inosservata che nessuno lo può ricollegare a Superman. Anche Superman, a me se non concesso che abbia senso. Il problema è che questo problema ce l'hanno tutti i supereroi. No, chi? Come l'esempio di Batman, no. Batman non ce l'ha. Marvel non c'ha nessuno. Wonder Woman. Cosa c'ha gli occhiali alla ma anche lei è lei... Fantastici 4 pure volendo, ma Fantastici 4 sono pubblici, vedi che capisci in cazzo dei fumetti, parla di altre cose, dai, su, comunque, dai. E comunque Wonder Woman comunque anche Wonder Woman, lei è Wonder Woman perché anche lei si travesse da persona della CIA anonima, quindi vabbè. Poi allora, lei non è che passa inosservata no, col zinnone è un po' difficile, però quando si copre. Poi c'era tre cuori in affitto, sì, carino, che poi tra l'altro è morto poco fa l'attore John Ritter, lo fanno. Poi pomeriggio lo guardavo prima di fare i compiti, anche se il mio fare i compiti durava da 5 a 10 minuti. Questo lo sappiamo bene, cara Getty. Questo è brutto. Ma anche Alice, la cameriera, mamma mia che tristezza per te, la cameriera che lavorava nel locale di Mel, che se non sbaglio era uno spin-off, ne fecero uno spin-off, perché mi sembra che c'era uno Alice. Capito? Si metto Alice, è un po' scorbutica che dentro sta tavola calda, non lo ricordate? Sì, 202 episodi. Mamma mia. Ma è una sitcom, però. Sì. 9 anni ininterrotti di l'ultimo episodio della serie. Le muore, no? Indipendenti sui cambiamenti, vabbè, una sitcom di quelle che duravano 20 minuti, non è che era. Sì, cioè, sì, in effetti. 25 minuti. Ma era un po' triste, a me non è che facesse i rapi tanto. Era sempre oscurato, Luca mi oscura ogni volta. Attimo, è il sito, c'è sta cosa del censurismo. Dunque, dopodiché, c'è la famiglia Adams. Quindi Morticia, che era la gragnocca, Gomez, è uno dei telefilm che forse resterà sempre. Morticia è normale che gli piace. Beh, normale. Tra i film metto Electric Dreams, che è bellissimo, questo c'è probabilmente con uno champagne diventa il supercomputer, film, è una cagata però. Che c'è la colonna sonora di Giorgio Moroder, infatti lei lo dice. Giorgio Moroder, che è, tra l'altro, il compositore italiano, faceva figo il fatto che un compositore italiano aveva fatto un film. Poi si è sparato, che fine ha fatto? Però, fa ancora qualcosa? No, ha fatto qualcosa pure per le Olimpiadi di Los Angeles. Comunque, al di là di questo film era una sorsenia. Sì, sì, una cagata in mano. Però l'ho confezionato bene, cioè alla fine devo guardarli. Poi merita un posto d'onore Blade Runner, i miei coglioni, all'anima del posto d'onore. La nostra infanzia, su, dai, Blade Runner. Io lo so visto, insomma, appena uscito in TV, quindi avevo 12-13 anni, insomma. Corto circuito, che comunque, insomma, sì, quello è simpatico, dai. Labyrinth, che è questo. E War Games, anche quello, insomma. Ma come si chiamava? Sei stato reclutato per combattere l'armata di Kodà, se non sbaglio. Senti, ma quello con Dennis Hopper, c'è lui invece piccolo. Come si chiama quello che di Dennis Hopper che è piccolo e va dentro il tizio con la navicella? Dai, devo ricordare, quel film tipico tipo di questi qua. Inner Space. Forse un salto nel buio, no? Un salto nel buio, è Inner Space. Un salto nel buio. Esatto, no, ma tu dici Dennis Quaid, no? Dennis Quaid. Sì, salto nel buio, Inner Space. Era figo. Oh, yeah. Simpatico, però remake di Viaggio Allucinante in versione comedy. Beh, poi nella dopodiché, parte, nella parte finale della mail lei dice che siamo andati a vedere al cinema Poltergeist insieme. Bravo, che sei combinato al cinema. Bravo. Quell'età. Le è rimasto impresso. Non si sa chi è uscito peggio da qua. Io al cinema Poltergeist non lo sono andato a vedere, anche perché a me i film di paura al cinema non li andavo a vedere. Ti piacciono solo i film di menare al cinema. Infatti tu non è che sei andato a vedere il film. No, Poltergeist. Cioè, io l'ho visto. Se chi conosce Poltergeist lo sa che, insomma, dai, il film. No, all'epoca. Un film da struccio pure volendo, però. Attenzione, no, perché c'è la paura. E te la. Oh, ti consolo io. Si abbracciava. Dai. Vecchio porcellone. Oddio pure io, oddio pure io, è così. E lo so, ma infatti era lui che si appiccicava a lei, capito? Lui gli cazzi film che pure se vedi, ho paura. Voglio dire, cioè nel senso, vabbè, ve lo ricordate il film? Voi non lo ricordo. Certo che ce lo ricordo. Io me lo ricordo. Beh, da vedere. Non è male. Soprattutto dopo che hai bevuto così, cioè ti rientri un po' nella testa del sedicenne. Bel messaggio, bei ricordi. Insomma, io non vedrò pensiero che ti boccia, che vuol dire non sa mai andare. Chi è che ti boccia? Fai porcato con qualcun altro. Ma che ti boccia? Ho uno che mi scrive al podcast. Perché siamo io? Questo solo lo sappiamo. Perché il suo nome? Non so, Marco Paglia, tu lo conosci. Non è il soprannome, proprio il suo nome. Ma raga, a proposito di film, no? Pensavo proprio si bocce. E dei film che hanno segnato l'infanzia. Chi è che si ricorda il film che si chiama Un compleanno da ricordare? Vai. No, è una bella cagata, so, questa, no. Che, cioè, no, mo che è? Però per un titolo così, ma giovane è tristato. Vabbè, allora ti caccio fuori il computer con le scarpe da tennis, con Kurt Russell. Non lo ricordo, Scusa, sparisce e spara, sempre sembra con Kurt Russell, non mi vorrei sbagliare. Non lo ricordare. No, credo fosse una cosa. Spruzza, sparisce, molto spara, sempre della. Vabbè, ma questa era una cosa che. Cioè, tipo, com'era quella. Che facevano sempre? Ma tu vedi solo te, però, perché cioè. Guarda, io ne ho vista di televisione, ma non so, sono riuscito a non vederlo mai questo film. Forse volendo si poteva evitare. C'era il povero sfigato con i capelli rossi che lo distruggevano, poveraccio. Poi fa il compleanno diventa un mito e poi muore. No, pausa Giamendo. Aspetta, pausa con la cosa del Giamendo. Un'altra. Certo. Mamma mia. Io c'entro niente comunque. Beh, Floyd, questa è per tutti quei che si crede da essere Dio in terra. Ma in sostanza non ce n'è abbastanza. Punto fisso, random nei borsi, senti qua. In sostanza non ce n'è abbastanza. Credici, non puntare solo all'apparenza. Che sei figo, che sei vero e anche intelligente. Ma resto come sono, non fare cambio per niente. In sostanza non c'era abbastanza. Credici, non puntare solo all'apparenza. Che si figo, tu si beo e anche intelligente. Ma resto come sono, non fare a cambio per niente. Ascolta fratello, dimmi qual è il problema. Cos'è quello sguardo strano, facciam parte del sistema. Perché oggi ognuno è libero di essere il poeta della sua vita e nessuno gli può imporre alcuno schema. No, lo che non può, non può scegliere chi resta un attimo e poi ucciderlo. No, lo che non può, non può uccidere un pensiero prima di ascoltarlo. E questo che mi blocca e te lo dico un'altra volta. Perché giudichi la gente quando non ti tocca. Ma basta con le occhiate, è giunta l'ora della svolta. Il mio pezzo è stato chiaro, il resto non importa. E in sostanza non ce n'è abbastanza. Credici, non puntare solo all'apparenza. Te si figo, te si bello e anche intelligente. Ma resto come sono, non fare cambio per niente. In sostanza non ce n'è abbastanza. Credici, non puntare solo all'apparenza. Te si figo, te si bello e anche intelligente. Ma resto come sono, non fare cambio per niente. Tega il problema di torta super macchina. Mico il problema di guidare con una marcia sventola. La differenza tra noi altri sei in abisso. Te vuoi parire figo ma sostanza non te nega addosso. Quindi non dico di essere il migliore di sicuro al mondo. C'è qualcuno in gamba con più storie. Ma vorrei solamente che per una volta guardassi un po' più a fondo e non con la bocca storta. E in sostanza non ce n'è abbastanza. Credici, non puntare solo all'apparenza. Che si figo, che si bello e anche intelligente. Ma resto come sono, non fare cambio per niente. In sostanza non c'è abbastanza. Credici, non puntare solo all'apparenza. Che si figo, tu si bello e anche intelligente. Ma resto come sono, non fare a cambio per niente. Canta il leone dalla foresta nera. Canta il leone senza la sua criniera. Canta per la rabbia, canta per il dolore. È stufo di essere visto solo come un animale. Stufo di essere addomesticato. Vuole dare suo calore a questo mondo malato. Ha avuto una missione che deve portare avanti e diventare più re e liberarli tutti. Resto da barbon, paro uno strazzon. Tutti che mi dice, ma di chi ti si fiol? Me sento fiol d'un uomo che nega che su col cuore. Io uso la testa prima di parlare. E in sostanza non ce n'è abbastanza. Credici, non puntare solo all'apparenza. Se si figo, te si bello e anche intelligente. Ma resto come sono, non fare cambio per niente. In sostanza non ce n'è abbastanza. Credici, non puntare solo all'apparenza. Se si figo, te si bello e anche intelligente. Ma resto come sono, non fare cambio per niente. Ciao a tutti da Mapo. Ebbene, guardando i telefilm dei mitici anni 80 non posso non menzionare 5 serie televisive che ricordo ancora con piacere. E mi riferisco a Fantasylandia, Dusk and Dutch e quelle di fantascienza di Galactica, Buck Rogers e poi il mitico Magnum P.I. Nonostante ai tempi non me ne sia persa alcuna, queste di tanto in tanto riemergono con più intensità. Voglio però aprire una piccola parentesi su Fantasylandia, in quanto è stato il telefilm a mio avviso più ricco di fantasia e di buonsenso. Infatti su Fantasylandia normalmente si esaudivano i desideri degli ospiti di turno per poi mostrarne le conseguenze buone e cattive. Quindi si cercava sempre, in un certo senso sognando, di ricordare che il presente va vissuto e che la felicità è in tutto ciò che ci circonda, senza andare troppo lontano. Il serial ha visto la sua prima alba nella TV americana ABC nel lontano 1978, invece in Italia è arrivato nel 1980 grazie alle reti di Canale 5 e Rete 4. Fra i personaggi principali ci sono gli indimenticabili Signor Rourke, interpretato da Riccardo Montalban e doppiato da Rino Bolognesi, ed il mitico Tattoo, il nanetto, interpretato da Herville Vilchains, chiedo scusa per la pronuncia, e doppiato da Armando Bandini. La produzione ha avuto una vita per ben 7 stagioni ed è stato fra i primi a portare nelle puntate delle vere e proprie guest star. Si ricordano infatti Lewis Arquette, Frankie Avalon, Linda Blair, Sonny Bono, John Collins, Gina Davis, Van Johnson, Lorenzo Lamas, Lisley Nielsen, Michelle Pfeiffer, Dick York e Adam West. Col tempo, grazie ai canali satellitari, mi è capitato spesso di incontrare le serie TV degli anni Ottanta, che ovviamente, vivendo di un ricordo filtrato dal tempo e dai preziosi 12 anni, erano mitiche, erano favolose. Oggi però, così come per i cartoni animati di un tempo, ho preferito non guardare più per non cancellare il ricordo lieto. Però Fantasylandia insieme a Starsky Hutch e a Magnum PI sono gli unici che, riguardandoli oggi, risultano sempre attuali e belli da seguire, se non fosse per quell'abbigliamento dai colletti troppo lunghi e dagli spallini molto pronunciati. Il podcast, certo, sì. Sempre il podcast fa? Altrove. Altrove, ah, quello che aspettando altrove. Ah, ma quando comincia altrove? Già cominciamo. No, è primo novembre. Ah, wow. Salutiamo Mapo che fa. Tu l'hai sentito altrove? Ovviamente no. Allora, Mapo, Marcello, Salamone, altrove, che inizierà il primo novembre, l'abbiamo sentito in questo messaggio che ovviamente la ci parla. Marchettona. Giustamente sta sempre. Che ci parla di Fantasylandia. Voi ricordate Fantasylandia? Come, signor Rourke? No. No, no, oh, no. Signor Rock. Allora, innanzitutto c'è Tatu, scrivi. Scusa, Fantasylandia, non è dove lavora Luca? No, Fantasylandia era. La mia ditta, no? Scusa. Era prima che arrivasse il progetto Dharma e succedesse tutto il casino col fumo nero. Perché Fantasylandia era quello. Era incredibile, cazzo. Allora, Fantasy Island, vero nome. Bravo, ricordi. Allora, c'era st'isola dove praticamente la gente andava là e saliva i propri desideri. Nessuno ha mai capito come cazzo facesse. Questo non è Lost, scusami. Ma questo è dopo, dopo diventa Lost. Dopo, dopo. Ma non ricordate così che c'era Montalban, che era quello che ha fatto Khan. Allora, ricordi. Certo che muoiono, c'è il nano Tatu. E poi c'era il nano Tatu, bravo. Certo. Era la versione per terraferma di Love Bot. Però la Love Bot si fermava e scendeva da un lato. Però aspetta, però c'era anche. Io sempre pensavo fosse Love Bot. No, no, no, no, guarda, no, che lì c'erano. Giano. Lì c'erano. Pensavo, lì, no. Lì c'erano anche tinte forti e anche horror. In alcune puntate c'erano anche degli horror. Che quindi c'è stato dato. Ehi, signor Nark. Perché sì, no, ma a parte che no, no. Comunque c'è. Cioè, beh, l'ha rimosso il signor Nenitto, quindi con la pubblicità bianca. La differenza del Love Bot che hanno riproposto Fantasylandia, credo che grazie non abbiano. No, mai sentito. Praticamente mai. No, no. Ma se voi. Allora, le ultime stagioni. Però, le ultime puntate. Le ultime puntate di Fantasy Island, per movimentarlo un po', aggiungerò il terzo personaggio. C'era il Tatu, il signor Rourke, e la figlia del signor Rourke, che era sempre vestita di bianco con la cravattina. Questa forse che era gnocca, ovviamente. Voleva, gnocca, però non faceva del vedere nel culo nelle tette perché era vestita in giacca e cravatta. Però era vestita in giacca e cravatta e pantaloni, attenzione, quindi non faceva vedere niente. Quindi, nonostante questo, sette stagioni. Nel frattempo possiamo digitare selvaggiamente. Esatto. E non siamo noi. C'è l'ultima mail prima di andare. Giampaolo, leggo io, dai. Un'altra cosa, no, Paolo, di poco dice più. No, basta, l'altra stagione già vendo, no, dai, abbi pazienza. Sono presentissimo. Cioè, tanto mandavamo tutti avanti. Sei tu che te contro in testa. No, ma poi comunque la gente manda avanti, cioè a me mi scrivono dentro su anime video, mamma mia che palle il pianeta, ma sempre manda avanti. Ma che cazzo stai? Tranne un podcast che invece si sentono avanti e indietro. Non lo scrivo. È vero. Schuller lo dice, io quando tutto un podcast mi piace, l'ascolto, ma schifo le canzoni. Ma guarda, gli altri anche, ma non te lo dicono. Allora. Fai un bel contest, fai un bel contest. Ma io ragazzi, cioè, voglio metto qua. Se tu mettessi però qualche pezzettino tipo porno fra una canzone pausa esatta, sarebbe molto una meglio. Bella voce suave. Tu mettici e dire che ce l'hai e dire poi. E dire che ce l'hai, capito? Ce l'hai. È gratis. Prima di miei video, quindi fai spazio. Ma Simone, io ti proporrei. Riprendendo. Subito, noi abbiamo subito. Riprendendo l'istante. Riprendendo un po' da Retrocast. Che loro mettono i rotti e Mosconi al contrario. Noi potremmo mettere un film porno al contrario, magari potrebbe essere interessante. Sperimentevole. Vado, leggo. La missione c'ha un suo prestigio. Dunque, siete pronti a catapultare? Cioè, ci ha appena detto che roviniamo il prestigio della sua trasmissione. No, no, appena detto, detto quando sappiamo bene lui con chi c'ha a che fare. Mi piace proprio, guarda. Allora, Giampaolo ha 4 anni, 5 anni più di me, ma è come se ce ne avesse 40. Tipo. Michela, quando vieni a registrare con i bro? Ma anche domani. Oh, è fatta. Dai, ce l'avesse pronta, amore, buona. Non c'è la puntata per non fa niente. Perché devo dire che metti un abbraccio. Un bel po' di critiche, quindi mi sono sentita un attimo. Accendiamo il microfono del diavolo. Michè, butta giù delle 4 canzoni di Giamendo e via. No, cioè, fa la puntata. Che poi tranquillo. Loro dicono, ma nella puntata dei Golibro, cioè ci sarà pochissima musica. Cioè, veramente pochissima musica. E forse è quello il problema, devi metterne di più. Anzi, lì è adeguato. Metti più musica. 40 minuti. Ma te le faccio io due canzoncine. Guarda, già so la sigla. Coli bros, vuole l'accento sulla. Oh, quanti libri che ti fo. Dai. Bella, eh? Non ci metto niente. Era solo improvvisato. Allora, se vuoi, dai, faccio pure un po' l'avanti. Coli bro, do you understanding? Sto parlando. Va, stai a cantare, non stai a parlare. Era bella la sigla. Guarda che era bella. Coli bro, what's my destiny, Coli bro. Leggo la mail di Giampaolo. Dunque, si incazza. Se già andato, già sta fumando. È nervoso, sta fumando. Allora, dunque, telefilm. Ma che fuma qua? No. C'ero io. Ma che stress. Mamma mia. Facciamo pausa? Pausa sigaretta. Pausa. Dai, dai. Abbiamo qui con noi un senzatetto che non mangia da quasi un mese. Per la legge sulla privacy lo chiameremo solo per nome, Franco. O preferisce il cognome, Salvetti? No, usi pure il nome. Franco, come riesci a sopravvivere? Ma vede, io tiro avanti con le elemosine per strada. Oggi, come vede, ho qui un euro. Un euro? Ecco, Franco, questo euro lo prendiamo noi perché il podcast ha bisogno di fondi per continuare a trasmettere. No, è mio? No, è, sì, è molla sto euro. No, ma che... Molla? Dammelo! No, ma... Ah, c'hai le forze per tenerti l'euro, eh? Ma no, che te devo mangiare, mamma? Ma che ce mangi con euro, Franco? Italian Podcast Network ha bisogno del tuo supporto affinché il servizio migliori in qualità e contenuti giorno dopo giorno con nuove trasmissioni e idee. Vai su www.italianpodcastnetwork.it e clicca sul tasto donazioni. Non importa quanto doni, ricorda, un piccolo click per te è un grande aiuto per noi. Italian Podcast Network è il tuo podcast. Un dente d'oro. Hai capito, senza tetto. Allora, la mail di Giampaolo, vai, chi la legge? Luca, Luca. Dunque, telefilm che io mi ricordo quando ero piccolo sono molti. Ricordo con piacere l'amico fantasma. Che cazzo è? Cioè, con così coro, siamo di click and flock. Che è l'amico fantasma? Forse era di qualche anno prima ed erano repliche. Perché mi piaceva l'idea che l'amico, pur morto, potesse aiutare il suo collega. Bello. E poi il fantasma era vestito di bianco. Ha messo anche il link su YouTube. Io abitavo senza l'autoparco della Croce Rossa. Sopra l'autoparco. E vedevo uscire le ambulanze di edifici. Vedeva la gente morta. Ma che cazzo è? Vedeva la gente morta. Tutti questi uomini vestiti di bianco. Forse il cuor mio speravo che i fantasmi aiutanti esistessero veramente. Ma che è stato? No, aspetta, vediamo un po'. No, c'è la sigla. Randall Hopkirk, The Seized. Ma è una cosa tedesca. Giampaolo, ti voglio bene, ma fino a un certo punto. Sozzeria, dai. Sempre sull'onda della fantascienza e delle stranezze, ricordo anche Il Prigioniero. Questo me lo ricordo anche io. Vagamente. Beh, il Prigioniero, un uomo che tentava la fuga da un mondo prigione ed era seguito da un'enorme palla di tipo minuto. Lo hanno rifatto sia sulle droghe che su Jimmy, prima che chiudesse, ovviamente. Ed era un telefilm di quando eravamo ragazzini, ed era proprio figo. Cioè, secondo me, per certi versi. L'hanno anche fatto anche un remake. Hanno fatto anche un serie alla recente. Ma che è quello del pallone gigante? Brava, brava. Sempre brava. Una stagione sola di 17 episodi. Però è veramente un bel serie. Era troppo sperimentale. Poi i mitici ai confini della realtà. Delle versioni più vecchie ricordo l'episodio in cui delle persone si vedevano rinchiudersi dentro casa per poi scoprire che erano i bambini. Bambolotti di un bambino pestifero. Madonna, certo. Sì, io l'ho vista stavolta. Ma chi è Giampaolo? Lo conosciamo? Chiamiamolo, si sente solo. Che c'ha? Chiamiamolo. O ancora più affascinante l'episodio in cui girava l'angolo, c'era il vuoto assoluto perché era stato più veloce delle persone addette a costruire la realtà. Questo fecero anche un remake, fecero una volta. Sì, insomma, volevo anche Zorro e i cartoni. Vabbè, meno male. Sì, perché praticamente ogni minuto veniva costruito. Questo come i cartoni vedeva Gheghino Kitaro, secondo me. Cioè, proprio. Ma certamente i telefilm di fantascienza, Star Trek neanche a nominarlo, o di cose soprannaturali sono quelli che ricordo con più piacere. Molti sono ancora riproposti anche oggi, ma c'è una serie TV, allora si chiamano Sceneggiati, che era la storia di un famoso psicologo che si intitolava Esp, con Paolo Stoppa. E ricordo anche che inevitabilmente tutte queste serie finivano per diventare i temi a piacere del giorno dopo della messa in onda. Per mero elenco ricordo A come Andromeda, Gamma. Sì, A come Andromeda me lo ricordo pure io. Giocando a golf una mattina. Questo era un giallo come tutte le serie. Ah, questo era uno sceneggiato. E poi questo è a 90 anni, Giampaolo. E poi ricordo la prima versione rispetto a quelle che oggi tutti conoscono di Dottor Who. Fermi tutti, vediamo qual è la prima versione secondo lui. Secondo lui, forse quella degli anni 70. No, questa non è la prima versione, amico mio. Questa è la seconda o terza? Questa è la quarta. Quarta del dottore. No, la quarta, questo è il dottore che era in Italia, Tom Baker, il quarto dottore. Il dottore. Beh. Mi fermo, altrimenti finisco per fare solo un elenco. Ciao, buona vita e buona TV. Penso, buona vita. Buona vita, per tagliare le reti io. Rigorosamente in bianco e nero. A casa mia il colore è arrivato solo nel 1990. Ma dove abbi? Pirpigna, dove abbi? Cioè, c'hai ancora il 90. Il 90. Stavo smerciando di puntino. È proprio gli piace. Gli piace più forte di lui. Gli piace. È retro, la vecchiezza. Sì, retro. Sì, sì. Vabbè, comunque, abbiamo concluso le nostre mail. A questo punto facciamo un giro noi. Grazie a Dio, vai, inizia Roberta. Vai, che sta zitta fino adesso, non c'è manco un uno. Sacco. Tipo Happy Days. Ah, oh, Happy Days. Happy Days. Tipo... lo sai che lo sai che cosa è uno spin-off di Happy Days? Io ci ho vinto una coppa a TV Risposte estate. Morché Mindy. Mindy, sì. C'è uno spin-off di Happy Days. Ma in realtà anche Chucky, però. Allora, in realtà non sono d'accordo che sia uno spin-off. Infatti, cazzo, lei dice no, una cosa. No, e dice sì, hai ragione. Beh, fatto no, che porca paglia. Non sono d'accordo. In due episodi. In due episodi, non è che lo fa diventare uno spin-off, però, Beh, cioè. Però fu preso perché comunque era un'idea buona, sì, sì. Beh, era così, no, puntata di Andesa, in due puntate. In due puntate. No, ma tra l'altro la prima puntata mi sembra che avesse io partirei con grazie. Scusa, ma no, dicevo, nella prima puntata in cui apparse Mork, aveva anche cattive intenzioni, quindi non era neanche tanto buono, se non era, era un po' cattivo, sì. Un po' strano. Mirava a distruggere una cosa del genere. Vogliamo parlare del fratello Chuck che... Ah, la sindrome di Chuck. Jump in the shark. Che innanzitutto in italiano era doppiato con Chuck, che era una cosa impossibile da sentire proprio. E poi sparì, perché era talmente rompipalle che ma sparì. Ma non solo sparì, ma fu proprio cancellato dalla linea temporale. E certo, Chuck. Fratello Chuck. Questa è una cosa che Luca racconta sempre in ogni puntata dell'anime video, racconta sta cosa. Cosa racconta? Chuck è sparito. La cosa di Chuck. E certo, perché va detta, capito? È una cosa triste. È importante. È importante. C'è chi ci scrive enciclopedie questa cosa. Perché poteva andare in Vietnam, ma poteva essere. E ogni nome è veramente casuale. E diciamo che possiamo dirlo. Che, scusa, possiamo dirlo che questo che scrive enciclopedie in genere va da Carlo e gli dice una buona idea, e lui dice no, non la finirai mai. Ne parliamo che è stata una serata molto tragica. Il vostro anniversario, vedrai stanno cosa ho in mente, che cosa vi sto preparando. Chiedere, ma scusa, Carlo, di chi stiamo parlando? Di nessuno. Sono amico più caro. Quello che ha fatto veramente di tutto e di più. La serata passata di quelli contenti? Ecco questo, insomma, possiamo. Spiegare. Hai finito con i nomi saranno famosi. Saranno famosi. Grande. Ricordiamo che l'attore sulle balle Johnson, è morto. È morto di bestemmie, soprattutto a Piazza Campodifiori, ubriaco tutte le sere. Cioè, nel senso, posso dire una cosa sull'Eroi? Questa poi io. Avanti del trash, no, cioè, io vedo tutto un mito. Io vedo ubriaco questo tutte le sere, fino a che poi non è schiattato. Ma come no? Perché tu non sai la cosa. Io avanti del trash che c'ho, io sapevo che il mio programma televisivo in assoluto preferito di sempre è Buona Domenica con Costanzo. Cioè, perché secondo me là abbiamo toccato delle punte di mondezza proprio mai raggiunte in altre vette. Ricordiamo che Luca è un. Io vi dico, una volta sono stato. La ragazzina ci pagavano per andare. Però ti dico che io una volta sono stato a Capodanno a casa per vedere Capodanno con Buona Domenica. Cioè, ti dico questo perché era proprio il massimo proprio della mondezza. Che loro registravano il 23 dicembre. Non c'avevi amici. No, ero a casa con gli amici, c'era Manolina, salutiamo. Insomma, stavo a casa. Questa puntata è registrata il 23. Loro registravano il Buona Domenica il 23. Una tristezza unica poi, No, io con scritti balletti, poi la mandavo in onda il 31. Peccato che quell'anno, il 27, c'è stato lo tsunami. Quindi praticamente c'era la parte normale, poi c'era Costanzo dalla parte da solo che faceva. Ricordava se lo tsunami, però, che ci stanno le vittime, adesso c'è il Tocea The Night, e ballava. E poi c'era Riroi. Ma dopo un po' mi richiesto, c'era Orietta Berti, finché la barra continuamente, poi stacco su di lui da solo, sulle scale. O tsunami, però, è la cosa grave, ricordava, adesso mica buon accorti i cagnolini, no? E la cosa bella è che c'era Riroi, che lo chiamava Riroi, cioè l'aveva recuperato, cioè, perché Riroi è uno che c'ha dei problemi, ecco. Riroi, cioè che comunque c'ha un nome proprio. Riroi, andiamo avanti, io lo faccio l'ho visto un sacco di volte anche a Piazza Campo dei Voli, visto. Comunque qua abbiamo, grazie a Dio, una lista sensata di cose, abbiamo lisciato le cose che avevamo su ragazzi da terza C. Già, però lì stiamo sul trash. Oh, college l'ho rivisto l'altro giorno. Mio Dio, ma è imbarazzante. Classe di ferro. Classe di ferro era È una cagata immane. Questa è la storia di uno regolare. Ma quello volevo dire io, non siete arrivati a me. Io c'ho i miei due telefilm preferiti. Continuiamo il giro. Cioè, hai fatto solo tu fino adesso. Allora. Vabbè, da dove è finito? Sì, sì, sì. Diciamo che vi ho detto i miei preferiti in assoluto. Vabbè, come film. Tu con la famiglia in Blue Jeans. La storia infinita. Tu parli quello là con Michael J. Fox. Sì, sì. Clamoroso, quello è un No. Attenzione, la famiglia Brungizia è venuta un po' dopo. Quella che dici tu, è Casa Keaton, ragazzi. Quella è Casa Keaton con Michael J. Fox. Ma è Casa Keaton, è vero, hai ragione. Attenzione. Che quel telefilm ha raggiunto delle punte di hilarità straordinarie. Sì, sì, cantiamo la sigla. Show me the smile. Poi c'era Justin Bateman, che allora era una cagnocca, insomma, ne vogliamo parlare. Ma passiamo a casa. Passando a me, io penso che quello più figo dopo Supercard, per me è Neriali, era Sandokan, che a me piaceva tanto. Sandokan, grande. Più crudele è la guerra, e l'uomo sa cos'è la guerra, caldo e tenero. Poi a scuola c'erano anche le versioni viriliste e corrette da... Che è meglio non sentire, però. Lasciamo al dimenticatoio. Santo cane! E poi a me piaceva un sacco Automan. E certo, Chuck Wagner. Ma se ne hai detto peste e corna quando abbiamo parlato del mio video. Ma era quello là che lui c'era la macchina e girava. Ma dai, ci vogliamo ricordare, scusa, il prologo di Automan. Che Walter Neville era un poliziotto un po' così. Poi va nella sala del computer e se c'è abbastanza. Con Commodore 64 crea un'intelligenza artificiale. Se c'è abbastanza corrente, prende vita. L'hai visto oggi? È una cagata pazzesca. Allora è una figata. Cioè, se lo avessero fatto oggi avrebbe avuto più senso. Diciamo così. Ma è vero. Tecnologia alternativa. Era il fascino delle nuove tecnologie. Gli ologrammi. Certo. Beh, oggi sarebbe più plausibile, forse. Lui fa Walter, devi da una scala plausibile Wargames, allora no, Wargames no, Wargames no, da una scala da 1 a 10 devi pensare a me come un 11. Sì, certo. Dai, è fantastico. 4 digitale praticamente, che poi voglio dire, cioè nel senso era una tamarrata e quindi è stato anche interrotto un poco, però ma forse perché è morto l'attore, 9 puntate, che assurdo, perché sembra chissà quante fossero, perché le rimandavano, dicevo cazzo. Tu pensi che Manimal, che noi ce lo ricordiamo come la serie infinita, sono 5 puntate? No. Sì? No, possibile. Se sono 5 sono 9, una cosa del genere. Non so, 5 sono troppo poco. Perché sono di più. Facevano sempre la stessa. Tu sei la più giovane di tutti. 8 puntate. Manimal sono 8 puntate, di cui mi pare 3 non mandate in Italia, quindi 5. Ma io l'ho visto. Che era lo sguardo 5. Del falco, la forza della luna. No, quello era un'altra cosa. Cosa fantastica. Cioè respirava e si trasformava in un altro animale, era molto bello. Poi cacciatemi fuori. Sei Maria di Michela, Michela. Dici tu. Classe di ferro che era troppo bella, era troppo divertente. Per me era una cagata in mano, però vabbè. College. Io c'avevo il sergente, l'aulo, quell'altro di grado di Il tenente che era mio vicino di casa, quindi insomma. Ma che davvero? Sì. E adesso è morto. No, appena vicino. Allora intervistiamolo. Però penso ancora di essere un tenente, quella è la cosa grave. Ancora va in giro con la divisa, no? Credo che abbia fatto molto altro. E poi c'è il tipo fricchettone da Gian Ferrari, che figata. Fuori un paio di ragazzetti, tipo, siamo quelli. C'era Pappalardo, poi quello con gli occhiali, Rocco Papaleo. Papaleo. E poi c'era anche lo spin-off, no? Quello là che era bellissimo. C'era pure uno spin-off dei Casse di Ferro che con gli stessi protagonisti e faceva una squadra speciale. Forse non era uno spin-off, era un riciclo, forse era. Dite qualche cazzata, io lo cerco. Scusa, tanto. Scusa, c'è la sigla di due stagioni poi Casse di Ferro. Vabbè, ma in Italia che poi avete chiamato a farmi militare, mamma mia, quanto è da lì che ho cominciato a odiare Lorenzo Cherubini. Giampiero Montini, cioè, che è il nobile di famiglia, che è quello già qua Ferrari. Sì, Gabriele Serra Barese, ma c'era quello che si chiama tipo primo, quindi sesto Cardarelli, che è quello che faceva il meccanico, era bravissimo. Reggiano Tosto, Rocco era Rocco Papaleo, Mirko Delemano Romagnolo, adesso non mi ricordo. Guarda, ti so, Lorenzo Colombo. Vabbè, poi c'era, vabbè, Casa Keaton, che era proprio quella che mi piaceva. Michael Gross, Michael J. Fox, Justin Bateman. Fox, grandi attori. E li attesi sono poi spariti. Quella più piccola, che è stata presa per culo anche da, da tutti i cartoni animati cattivi d'America, la più piccola. La bionda. Quella più piccola, sì. Che adesso non è veramente. Non ha fatto più no, ha fatto qualche cosa, ma fallimentare con alcolizzata. Beh, no, diciamo che la sorte peggiore è capitare. Quelli di mia moglie una storia. Arnold. Arnold. Arnold è stato tra fallimentare. Arnold. Sono tutti morti. Suicidata che Kimberly. Quell'altro sta in carcere. Arnold è morto. Vabbè. Ovviamente la prima governante aveva 105 anni la prima stagione, penso sia morta non durante le riprese. Una buona stella, poi assolutamente sei. Vabbè, ma una minima citazione che poi non farete su Dynasty e Dallas. No. Ma questo ma perché allora facciamo una citazione. Chi di voi si ricorda la sigla di Dallas? Aspetta, aspetta. Se mi dai un accenno, ma la ricordo. Ma noi la viviamo tuttora una sorta di Dynasty. No, Dallas. Questa sembrerebbe, ma non è questa. Perché quando andò in onda la prima volta, la sigla era un'altra. Era come grande, ma come grande l'America. Ehi, forza, vieni a Dallas. La prima serie noi la fecero sulla Rai. Mi fai parlare? Vai, che cazzo? Che noi a Roma, infatti facevamo forza, vieni e dalla. Stai tranquilla, dai, dai, su, c'ho un sacco a pelo e la chitarra. Basta, non basta. Sì. È vero, c'ho un sacco a pelo e la chitarra. Io mi ricordo, la prima serie fu passata alla Rai e non era male. Non era male. Poi è diventato una telenovela, cioè quindi. Però all'inizio non era così. Ma i film, scusate, ma la trilogia del. Del presagio? No! Omen! Omen, il presagio! Le guerre stellari, aiutate! Non mi viene più. Raccontaci qualcosa. Ritorno a futuro. Cioè, vabbè, sì. Ma diciamo che è stata una parabola discendente. Però faceva parte del culto, però. Cioè, ritorno al futuro. Vabbè, allora, il primo e il secondo. Indiana Jones. Ma io penso che. Indiana Jones è stata una parabola così. Comunque, io ancora ho detto i telefilm. Non ho detto i miei telefilm. Neanche io so per questo. Neanche lui, perché non ci cagano questi proprio. Questo si è messo lo schermo, il separato, poi fa pure cose sconce con chi sei tu. Quello dietro, guarda proprio. Si toccano. Che ti boccia. No. Con l'audio doppiato da vabbè, andiamo avanti. Chi è questa che ti boccia? Top Gun. No, il mio telefilm preferito non può essere altro che Love Me Lice e Behind. Cioè il seguito. Però almeno due era banale, si sapeva, perché chiaramente c'è tutto il bello di quelle cose che invece a me dei film, cioè il trash. La banalità. Una traslazione da Tokyo dove facevano gli Okonomiyaki a Milano 2. Dove fanno i polpette e le melanzane? Il gatto che parlano di lì. Gente con le parrucche, Cristiana Vena con la parrucca. E diciamo che c'era la fantastica Manuela Pacotto che interpretava Marica, con la quale Giorgio Aromix è sparito per un quarto d'ora. Io ho risentito la registrazione e si sente: no, non qua, andiamo là. E non so che altro è successo. È sparito per quasi 20 minuti con Manuela Pacotto. Si è portato. Ciao Giorgio, e di là. Si è passato lo zoom, io ho risentito la registrazione e si sente: no, non qua, andiamo più là. Dove vuoi tu? Ma era, sì, qua. Poi non lo so che hanno fatto, quindi non lo so. E lui non va detto, scusa. Ma lui è un tipo di serio. Però ci ha filmato, cioè questa ipotesi su YouPorn si trova. Vabbè, poi basta. E poi il secondo è i 5 del quinto piano. Non so chi si ricorda. Mamma mia, sì, i 5 del quinto piano. E certo, no, quello è bellissimo perché c'è la famiglia Robinson, che non l'abbiamo citato, perché Robinson sono una serie troppo figa. In Italia con Gian, Derrick e Gian. Vero. E il bambino della Tinseman. Gian, Derrick e Gian abitava vicino. E che cazzo? Che bucce città! Campagna vicino Roma, tutti scappavano da Roma. La differina. E ci vive ancora? Ah, ci vive mio padre. No, tu. Lui. Io no. Lui ci vive ancora. Andava a intervistarla. Andava a intervistarla. Che cazzo, scusa. Che ne pensa della televisione di oggi? Ma che dai. Intervistiamo. Ma è morto già. No, Rick, forse. No, Gian è vivo. Quello insomma, comunque. Comunque, adesso lui sì. C'è il bambino della Tinseman. Te lo ricordi quel faceva? Sì, mamma sì. Buona la Tinseman. Ma quelli sono degli sfigati pazzeschi. Sì, e poi c'era, aspetta, arriviamo al pezzo forte. Bravo, con Gianfilippo, il figlio quello stupido. Io ho amico su Facebook. Gianfilippo del quinto piano. Ne va anche orgoglioso. Bravo, orgoglioso perché era. Che cosa diceva Gianfilippo? Diceva sfortunello io. Lo ricordi? Sì, faceva sfortunato. Poi se tu ti svegli, adesso vabbè, non più perché c'è Sky, grazie al cielo, però quando mi svegliavo alle 5 di mattina, molto spesso. Che cazzo ti svegliavo alle 5? Per studiare. Perché lei deve salutare il buongiorno al sole come Peppe Scaletta. Perché dovevo studiare. Non mi sono svegliato alle 5. Perché dopo dovevo andare a lavorare. Non pensavo neanche che esistessero le 5 di mattina. Per me le 5 mattina è ancora il giorno prima. Io mi associo fino alle 6 e mezza, alle 7 per me il giorno. Puoi bere il caffè ancora insieme a Gianfilippo, perché quello fanno. Lo fanno? Alle 5 di mattina. Solo devo, mo appena mi arriva Sky lo registro la serie, la metto proprio su Sky, su Mediaset. Ma che bello, davvero, sfortunello io. È fantastico. Sto vomitando. Io poi mi piaceva tantissimo anche ovviamente i telefilm, arriva Cristina, Cri Cri, l'Europa siamo noi, tutta quella serie là in cui Cristina fa se stessa, diciamo, che bello, oh, studio università. Cristina non fa un tempo più liscia. Infatti, ricordiamo che il telefilm di Licia finisce col crossover in cui Cristina chiama Licia. Ricordiamoci, sì, sì, gli dice: guarda, mi sembra se stessa. Siccome dobbiamo fare il figlio, che di cavolo, cavolo, quindi, proprio... Oh, quella è la prima fiction italiana di sempre. Ricordiamo che ricordiamo che la gente come Luca, che è stato ammiratore di Cristina D'Avena, insomma, io è ammiratore di Cristina D'Avena, io, ma che dice questo? Ha consentito a gente che avrebbe dovuto zappare la terra di, insomma, vivere nell'aggio. Vabbè, ma tutti io guardavamo Cristina, ma io no, un po' accanito. Vai con Level, vai. Vorrei vederti, sai, ma so che non verrai, sì, perché tu non pensi a me. A questo punto possiamo chiudere la relazione. No, tanto con Giamendo no, per carità di Dio. È meglio per i Bello Views. Non lo so, è una cosa. Da dove sei? Fantastico. Un altro telefilm mi è piaciuto, ne posso dire più di uno? Non mi sta mettendo ansia stasera. Dimmi, che c'hai? Tra due ore che cambia. Scusa, dimmi. Posso dire una cosa? Adesso la dico perché mi hai fatto incazzare. Dai. Ci sono podcast dentro i piedi e durano 4 ore. Mi stai mettendo fretta. Non ci sono più. Mannaggia la miseria, mi stai mettendo fretta a me, capito? Lo spezzi in due parti. Ma noi, che noi il massimo podcast lo faccio durare 40 minuti massimo. Cazzo, vuoi farlo durare? Vuoi questo? Guarda, io cambio subito tono di voce. Allora, il mio telefilm preferito. Dai, forza, andiamo. Lo vedi come fa? Vedi? Perché io vedo il ritmo che cala. No, perché tu sei. Ma che cala? Stai ma quale cala? Comunque mi piaceva un sacco Via Zanardi 33, perciò di Italiana de Friends. Cazzo, no, perché mi era scritto negli anni 90. Oh, certo, era figo. Esatto. Era la versione italiana di Friends. Ma noi siamo parlare dell'infanzia, tu mi parli del vero, film. Questo io ero già adolescente. Vero. Comunque io sono disgustato. Abbiamo bocciato. Io sono amareggiato e disgustato. No, ma non è possibile. Cosa? Non è possibile. Le storie epiche. Basta, poi Luca. Basta, Luca. Basta, mi hai messo l'ansia. Abbi pazienza, eh. Un film. Sì. Il mio film preferito, cioè degli anni 80. Il 2005. Stiamo sereni, ho sbagliato solo uno. Non è che ho detto chissà che. Non lo so, boh. Ce ne sono tanti, eh. Ce ne sono tanti, non lo so, probabilmente Ghostbusters. Ghostbusters è uno dei miei film preferiti. Grazie. Soprattutto quando nella frase tipica in cui gli fa: sei tu forse un dio? E Ray gli fa: no. E allora muori. Allora Venkman gli fa: Ray, no. Se qualcuno ti dice che sei un dio, devi rispondere sì. Se qualcuno ti chiede se sei un dio, devi dire di sì. Sì, grande, no. Ghostbusters il primo soprattutto. Vabbè, ho finito, dai. Beh, allora io ne ho decinaia e decinaia. Ma no, ma anche qua 4-5. Lo so, ma quando devi chiudere, cito le di corsa. Cito velocemente. Perché a meno che non sei una donna e non parli un po' così, cito velocemente. Cito velocemente in ordine alfabetico. Dai. Assolutamente non in ordine alfabetico. Cito dimensione alfa, che nessuno ha mai. Cerchiamo su Wikipedia. Cioè. Dimensione alfa. Vabbè, io. No, qualcuno l'ha citato. No, oltre. Io. L'ha detto, Giampaolo. Dimensione alfa, no. Sì. No, assolutamente. Sì, leggi la mail. No, non ci sta. No, ci sta, io lo ricordo. Non c'è. Non siete immaginati. Ce n'è uno, episodio 8. Non valgono quelle che sono meno. Giampaolo. Avete citato anche altre zozzate. Non lo dice comunque, fidate. Dimensione alfa, vabbè, poi no, tutti quelli che avete detto voi, ovviamente Magnum PI e via dicendo, altri film, altri telefilm che sono un po' di nicchia. Lo dice. Di nicchia, infatti no. C'era Menima che durò 8 puntate. Comunque 8 episodi. No, lui veramente c'era l'infanzia felice, No, è bellissimo, c'era questa famiglia che va dentro la piramide egizia durante una famiglia, dimensione alfa, va dentro questa piramide, da dentro la piramide egizia durante l'allineamento di durante l'alignamento dei pianeti del sistema solare si ritrovano in un'altra dimensione. Questa è bellissima, bello, stupenda. Era anche figa, insomma. Oh, c'era Los Angeles, insomma. Poi c'era una bella cagata, l'odio. Poi c'era Spazio 1999, ragazzi, che nessuno ha mai citato. C'è un comandante che distrugge tutte le astronavi. Soprattutto lo spazio è pieno di misteri. Pezzo di misteri. Vediamo un po' nel mercato. Poi che altro c'era? Di Magno P.I. qualcuno l'ha citato, però non ha colto la bellezza intrinseca dei paesaggi, dei personaggi. Ma lo sai che poi che piani ero convinto che T.C. fosse T.C. come T.C. c'era Rampino, te lo ricordi? Rampino, è vero. Una cosa, scusa Marco, vai avanti dopo. No, ma tanto diciamo. Pezzo, dai. No, dillo. Una cioè, cazzata, una strozzata. Vabbè, è uguale, non mica mi offendo. Non c'entra niente con te. Potresti distruggerti uguale volendo. Non so, film tutti, cioè praticamente da Guerre Stellari a Superman 1, 2, 3, addirittura quando ero... Una prolifica comunque. Sì, belle cagate, Robocop. E pure il 4 ti è piaciuto di Superman? Ma allora mi piacevano tutti, poi adesso mi rendo conto allora, che sono delle cagate male. Il film di Superman è... Però c'è sta mio figlio che è il sabato pomeriggio quando lo danno su Taglia 1, lui se lo guarda lo stesso. Certo. Superman. Vabbè, mica. A 12 anni ti piace, poi come quando c'è 20 comincia, ma che è sta cagata? È normale. Però di Superman potremmo anche citare le avventure di Lois e Clark, che era una schifezza totale. Cagata. Sì, sempre con c'è un sacco. No, che cazzo, è muscolosissimo. Per non parlare del fatto che c'è il Superman quello anni 50, il telefilm, che poi l'ha fatto anche Hollywood Land, il film. Non ricordo. Questo è il cartone animato. Io mi ricordo anche Superboy e c'era pure il cartone animato con Superdog. Superboy. Superboy mi sa un'altra cosa. Perché c'era il mantello con la S rossa. Ah sì, ho capito, il cartone Superman, c'è pure il cartone Batman. Sì, però quello mi sa recente. Ma sono cartoni animati o film? Sì, perché i cartoni animati, ragazzi, voi ricordate che ne so, tipo Aquaman? Sì, voglia. Aquaman, voglia. Vabbè, io adesso vi tiro fuori sui cartoni animati e chiudiamo subito la parentesi Super Pollo. Super Pollo? Ecco, visto, Super Chicken. Dai, un cartone animato americano di merda. Però era fighissimo. Un bambino triste. No, ero contentissimo quando vedevo Super Pollo. Poi dopo c'era la tristezza dopo Super Pollo. Poi no, telefilm erano quelli. Poi erano sempre tutti quanti gli stessi. Poi ho detto Charlie Sanders. Charlie Sanders l'ho sempre odiato con tutte le mie forze. Adesso hanno provato a fare un remake. Sì, hanno fatto 3 puntate e l'hanno smerdato. Quindi sono altre 3 puntate che non vedremo mai. Io però c'è. Perché diciamo, non è proprio dell'infanzia, però se lì borderline. La prima serie dei Visitors, cioè. Ah, vabbè. Dai. La seconda è una cagata, però la prima. L'ansia la faceva venire, faceva venire l'ansia. Non abbiamo parlato, Pizzi, di questo mi meraviglio di te, da quale persona sei, di Twin Peaks. Twin Peaks è stato il fenomeno telefilm. Ma io Twin Peaks non l'ho mai visto. No, 1988. Non l'ho mai visto. L'ho visto soltanto quando. Io non vorrei dire una cazzata. La prima volta che l'ho visto. Dovrebbe essere fine anni 80 e inizio anni 90. No, anni 80, anni 80, assolutamente anni 80. Io non l'ho mai visto. Non 90, 1990. 90? Non è che io ho visto, ho rivisto qualche puntata insieme a Pizzi. Ma ci potremmo fare tutta la prima stagione. Secondo me lo devi far vedere, beh, perché comunque. È un'opera d'arte. Ho già visto vedendo 3 cose che lei ha cominciato tutta a vedersi e non le piacciono. Che? Dottor Who? Il nuovo Mazinga è proprio bello, cazzo. Non gli piace? A te è piaciuto? Ho visto 2 puntate. Poi puntate. Sì. Ma dove lo fanno? Ma chi c'ha tempo? Non c'è più tempo di dentro banco multimanie. Che finale, questo è il caso. Originalissimo. Perché tu, signor Nicolò. Ovviamente io compro e basta, è bellissimo Mazinga nuovo. Vabbè, comunque, bello. Tornando ai telefilm, mi è venuto anche un altro telefilm. Io se vuoi di questo, in caso. Mi è venuto anche un altro telefilm che nessuno ha citato. Luca, mi è venuto in mente un altro telefilm che nessuno ha citato. Che è Ralph Super Max Eroe. Non so se te lo ricordi. Ralph Super Max Eroe. No, vabbè, raga, era il coglionito. Aveva perso il libretto delle istruzioni. Adesso facciamo a Pizzi, visto che c'è sempre questa boria da 4 euro. Quest'estate, sempre questa domanda, ci ha vinto un libro, Tevere Expo, insieme a Daniele, che salutiamo di bomba. Perché cosa perché non riusciva a volare bene. Ho detto che adesso non gli hai detto, perché se ne ha perso il libretto di istruzione. E allora perché gli hai detto? Ma lo sapevo che era così. Ma gli ho detto adesso, io sapevo benissimo. Vabbè, ci stanno due telefilm che io non mi ricordo, uno sì più o meno, un altro non so neanche il titolo. Se vuoi passiamo una canzone di Giamento, così no, cat come si chiama? Allora, no, c'era. Basta con Giamento, mamma mia, tanta. C'era un, l'attore era William Cat, che adesso canta cioè il cantante degli Smashing Pumpkins. No, non è vero, questa è una leggenda metropolitana. È una cagata. Non è lui. No, è la leggenda dei Super Vighi. No, assolutamente no. È una bugia, è una leggenda metropolitana, non è Michael Corleone. Ho sempre odiato Super Vighi, non so. Ma io vedo quello che pensavo, tipo, se poi c'era sta, non so, sta tipa che batteva le mani, fermava il tempo, faceva quello che doveva fare, non lo so se non aveva fatto i compiti o robe del genere. E poi ripeteva il tempo e ripeteva. Non era Super Biggie questo? Non so. No, che cos'è? Ripeti un po'? Che batteva le mani e fermava il tempo. Ma vagamente mi ricordo pure io qualcosa. Non so. Vabbè, ma c'è la sequela. Però... come si chiama la maga? Vabbè, Ginny. Strega per amore. La strega per amore. Vita la strega era quell'altra, era quella bionda lì, Vita la strega. Che c'era J.R. che faceva il marito. Sì. Che poi fu sostituito. Forse non era niente. Allora, no, J.R. era strega per amore. Quella con Ginny. Poi c'era Vita da strega, che era invece con quella bionda, il cui marito, che era Dick Sargent, fu sostituito da un altro attore. Ma io vi dico anche Alf. Alf, sì, vabbè. Esatto, che era fighissimo quello. Fighissimo, bellissimo. Cioè, cagare. Angelosi, che è un altro ascoltatore, che aveva detto: mo vi mando la mail. Che voleva. Ci ha mandato. E voleva dire Alf. Che era quello alieno, Magna Gatti. Sì, Magna Gatti. No, sì. L'ha scritto su Twitter. Beh, Magna Gatti, dai, la simpatica. C'era i ragazzi del muretto. Ah, attenzione, la cagata. Ma è sempre odiato. Ma cagata. Attenzione. Attenzione. Attenzione, mi è venuto in mente un altro telefilm. No, assolutamente no. Infatti, hai detto Twin Peaks è un capolavoro. Ma io spero che muoiano tutti quelli che abbiamo fatto quel telefilm. Ma sicuramente. Mi è venuto in mente un altro. Ci diamo sotto. Mi è venuto in mente un altro telefilm che forse hanno visto 5 persone. Che era Misfits. Misfits of Science. Non so se voi vi ricordate. No, però hanno fatto remake. Non c'entra un cazzo. Allora, in italiano era Misfits, però in realtà in inglese era Misfits of Science, tra cui c'era una giovanissima Courtney Cox, che praticamente è quella che adesso... Monica in Friends. Monica in Friends fa anche Cougar Town adesso, che è una cagata, immagino. E c'era questo gruppo di supereroi, ma improvvisate, c'era questa società che era la Humanadine, che studiava le persone con dei poteri, e mettono su sta crocco dei supereroi, fondamentalmente, che c'era, sì, non era crocco perché è un telefilm comico. C'è stava il professor Ace, che era, non c'era niente, era solo abbastanza intelligente da riuscire a fare qualche piano che funzionava. C'era l'altro dottore, che era alto 2 metri e passa, che c'era il mito di diventare più basso, si era inoculato praticamente un ormone per diminuire, per rendersi più basso, ma in realtà riusciva a diventare grande come Big Jim per qualche minuto, quindi si rimpiccioliva, tipo diventava un palmo. Poi c'era Courtney Cox, che era la telepatica, la telecinetica, che muoveva gli oggetti vedendoli, e poi c'era Johnny Bukowski, che era un cantante rock che era stato fulminato sul palco mentre cantava ed era diventata una batteria vivente, quindi scagliava fulmini a destra e a sinistra, e questa allegra compagine di eroi del cazzo andava in giro a risolvere i problemi in maniera molto, molto caciarona e molto diciamo a cazzo di cane, però riusciva sempre bene o male a portare a casa la pagnotta, come si dice. Era anche simpatico, e anche questo ha portato molta fortuna a quasi tutti gli attori, tranne Courtney Cox, che adesso è ancora viva, perché l'attore principale, che era il dottore, è morto in un incidente aereo mentre stava facendo il militare nella Guardia Nazionale. Quello alto, invece, che era tra l'altro l'attore che faceva Predator, i primi Predator era lui, è morto di AIDS, stroncato in 6 mesi. Quanti hanno fatto? Hanno fatto 3-4, i primi due l'ha fatti lui ed è morto di AIDS per una trasfusione, tra l'altro, quindi bucio le culo. Certo, dopo questo tuo intervento, poi andare insieme a Giampaolo a vedere qualche film proprio, eh. Mamma mia. Io concluderei con un telefilm. Concluderei con un telefilm che è stato. È una commedia, in effetti. Però sono morti tutti in quella commedia. Una commedia molto critica per quanto riguarda il discorso della guerra del Vietnam. Forse non so se è proprio Mesh. Sì. Mesh era praticamente la con Alan Alda. Di questo campo medico in zona di guerra nel Vietnam. Era un bambino lì. Ma guarda, guarda che era una commedia. Era una commedia. Era proprio bello. Bello, no, Mesh secondo me è stato uno dei più belli. Era geniale, era. Perché proprio. Comunque era comico, cioè era una commedia. Cioè, trattava un tema nera, particolare, quello della guerra nel Vietnam, ma sotto una chiave sicuramente molto più ironica, insomma, comunque era scanzonato, faceva ridere, cioè non era una commedia, mo non è che proprio ci stai là. Però insomma. No, però era particolare, secondo me è stato uno dei tra i più bei telefilm. Era un umorismo. Un umorismo nero, però era un umorismo alla fine. Bello. Dovevi vedere. E a questo punto io direi, insomma, ci siamo fatti questa bella passeggiata tra canzoni di Giamendo e Amarcord. Allora, possiamo chiudere in maniera più sensata? Aspetta, sì, ti lascio la parola. No, prima. Perché voglio dire un po' di cose, pure tu dille, insomma, così. Vai. No? Innanzitutto voglio dire una cosa fondamentale. Si può chiudere Giamendo? Cioè, c'è un modo per chiuderlo? Proprio definitivamente. Può essere che cioè, forse io voglio dire il mio dramma. Forse un attacco ai pirati. Io siccome sono amico di Pizzi, no? Questo lo diciamo a tutti quanti. Da quando esce la puntata nuova di un qualunque dei suoi 1800 podcast, mi scrive e mi fa: è uscita questa puntata nuova, te la senti? Io in palestra la sento e mentre corro sul tapiro radio mando avanti. Perché? Non puoi fare la versione che io non mando avanti. Ma solo di tutto un podcast, diciamo. No, per carità, l'hai ficcato dentro Fotogramma 24, l'hai ficcato dentro. Archeologia Vita, l'unica che ci metti le canzoni di quello che non so canzoni, che mi tocca mandare avanti. Le canzoni di quello. Ma che ne so, quello che fa remix dance, una cosa terribile. Vabbè, Luca, roba originale, sono remix delle canzoni. Ma sicuramente poi rimette sul Giamendo, quindi prendi il coso. Vabbè, un po' un gusto uno, che cavolo. Sì, ho capito, però non puoi, cioè, nel senso. Può essere tutto merda. Ma no, il podcast è una trasmissione. Ma adesso facciamo un po' di sala polemica così alziamo gli ascolti. Podcast è una trasmissione, hai detto bene. Poi è una trasmissione che nasce senza inserti musicali. Ma chi l'ha detto questo? Guarda, ti assicuro. Cioè, i podcast storici diciamo tutti quanti. I podcast storici abbiamo già definito l'altro anno a Luca che sono morti. Quindi quelli nuovi, nessuno. Multiplayer non c'ha la musichetta leggiamento dentro. Rincast non c'ha la digitale, non c'ha la musichetta dentro. Ce l'hai solo tu. Fai farti notare. Quindi ce l'hai solo tu. Quindi io farei un esametto di coscienza e la toglierei, no? Che dici? Ma sì, non sono d'accordo perché comunque. Scusa, però è vero che c'hai solo tu. Fai capitoli. Devi fare le M4A. Ma se fai le M4A fai capitoli. Fai le M4A. Non si possono fare perché poi non tutti i lettori li leggono. Cazzo di Luca Dore Gli può fare una versione per Luca. C'è sempre una versione. Lui Luca, quello che sta in ufficio, che tanto ci sono minuti in cui non fa niente. Si prende il file e lo spezzetta. Se lo spezzetta è però dove si fa un po' le sala polemica? Gli altri podcast non ci danno la musica. Togliamola. Fai un negozio, metti la televendita al posto della mia. Metti Mastrota che ti vende le pentole. Anche quella, infatti, in conclusione salutiamo i nostri due sponsor. Innanzitutto ha riaperto il Blue Pub, diciamolo, perché insomma il nostro simpatico sponsor. Ciao Diego. Come vi ci porteremo come libri e antrusato.net. Ma io ci sono stato pure quello, insomma, ma adesso è cambiato perché hanno fatto insomma continua la sua parliamo di compravendita di libri, quindi andate su Pizzi, insomma, siamo stati compravendita perché per forza che marchettoni sono marchettoni. Ah, quindi non solo non toglie già vendo, ma aggiunge la televendita, cioè manco senza togliere, però guarda, però vergogna le donazioni dei vendi, anche la macchina per fare soldi che sono arrivate e ci hanno permesso di comprare microfoni che sono stati distribuiti già nella rete di IPN, quindi grazie anche a tutte, non ci mettiamo a fare l'elenco perché mi sembra veramente una cosa becera e lo fanno già altri. Per quanto riguarda poi come funziona di tutto un podcast, uno se non gli piace basta non l'ascolta, ci sono problemi, cioè. E loro cioè, è una trasmissione che è nata così perché adesso ma l'ha messo su tutto, l'ha messo su Fotogramma 24, no, messo su... c'è sta no, Fotogramma 24 c'è sta, l'ho sentita oggi in palestra. Fotogramma 24 c'è un bravo speciale, ma lì è indispensabile in Fotogramma 24 la presenza di tutto priorità sulla facciamoci voler bene anche la fa sentire quella puntata. Secondo me comunque oggi abbiamo acquistato un nuovo podcast sul nostro progetto. No, aspettate, a Michele, che lo dico chiaramente, l'amico di Carlo, Michele, il mio migliore amico, benevolamente. E qui hai perso anche quei spettatori che avevi, quei ascoltatori che avevi nel colibro. Luca, Marco, niente. Scusa, diamo i contatti del mio video. Che cazzo, Pizzi? Siamo venuti qua a casa tua a fare la puntata. Facci fare un po' di pubblicità. Li do io dopo, guarda. No, dai i contatti, Carlo. Su. www.animevideo.it, il sito. Basta, non si ricorda. Contatti @animevideo.it, okay. Facebook è animevideo cartoni. Oppure animevideo.it. Ce ne sono due. Oppure animevideo.it. Una è un densa e una è una pagina, giusto? Animevideo.it, animevideo cartoni. Come dire, qual è una di due che non ricordo. Okay. E poi abbiamo il nostro fantastico YouTube, che prima o poi qualcosa ci faremo, che non mi ricordo. / YouTube. Poi gli altri, allora, poi c'è www.multimania.it. E poi c'è www.telefilmania.it e poi i bonbon magici. I bonbon magici. Sempre con noi. Animevideo.it / bonbon magici. Esatto. Io ho un'idea per il nostro gruppo ufficiale. La nostra band, cartoon band. Vieni. Non sa più, c'è pure la band ufficiale. Tutto l'altro cazzo. E pensa che tutto questo l'abbia fatto senza mettere manco una canzone di Giamento. Manco mezza. Capito? Manco mezza. Quello che ha detto Luca è anche tecnicamente inesatto, perché lui mette le canzoni del disco che ha messo lui su Giamento. Quindi, cioè, diciamo. L'ho messo per non farmi rompere i coglioni da te. Va bene. Ma no. No, non ti inventa niente. Che ti sei pure messo sotto falso nome, fatto la recensione bella. Poi ti ha visto? Dopo la settimana, ma lo sai, già ci hanno scaricato in 15. Bello, hai visto il disco, eh? Quindi, cioè, non diciamo, insomma, cose. Ai Pizzi, facciamo pace, leva Giamento e leva quell'altra cosa che devi levare e torniamo tutti. Vabbè, dai, i contatti li abbiamo dati. Noi www.italianpodcastnetwork.net. Posso dire un'ultima cosa? Ma ha messo fretta e ansia. Beh, un pochino, sì. Ma perché sono noi, non si capisce? Non si capisce. Bisogna spezzare in 2, 3, 4 puntate. A noi corri. Guarda, sta di contatti, corri. Non possiamo manco fare polemiche oppure conversazioni normali. Le corse, no, cioè, mi sembra che vanno bene, io sono contento. Cioè, mi sembra proprio l'aver fatto una cosa di corsa. Brutta. Sei un'ora e mezza stamattina. Io abborro questo, ma ieri è un'ora e 40 con tutti i tagli, quindi sarà manco un'ora e 10. Certo, se ci metti le canzoni di Giamento arriviamo a 2 ore e 10. Se tu ce le levi, che so, vedi i ormoni. Tutti poi a fa due. Dai. Vabbè, dai, canzoni di Giamento, mettiamo tutto l'album di Luca. Oh, diciamo, c'è il bonbon magico. Lo non si può mettere perché sono canzoni. Qualcosa sì, cazza, insomma. Non si può fare meno. Puoi mettere solo la muta, ce ne fottiamo anche. Potete mettere solo la muta. Sì, ma non avanza diritti. Vabbè, quello. Ma di la mu, mettiamo la mu. Anche se è déjà vu, perché già abbiamo. Dice più la mu. Vabbè, dai, fai salutare Pizzi e ci andiamo a casa. Ciao, ciao a tutti. Alla prossima puntata. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.